Cecilia. Una storia di schiavitù, passione, amore, intrighi, potere e poesia. Introduzione. Ambientata durante il sultanato delle donne, 1550 anni, 1630, questa storia narra, in maniera romanzata, l'incontro tra Hürrem Sultan, alias Cecilia Cayetani, figlia del governatore spagnolo di Reggio Calabria, Don Diego Cayetani, e di Selim il Biondo, giovane principe ottomano di origini veneziane, figlio di Solimano il Magnifico. È un racconto a carattere insieme storico e sentimentale, drammatico e biografico. Descrive la vita di corte a Costantinopoli, gli intrighi, i complotti e gli eventi che portarono a Cecilia, la lunga marcia, Cecilia Hürrem, regina di luce. Una storia di schiavitù, passione, amore, intrighi, potere, sangue e poesia. Introduzione. Introduzione. Ambientata durante il sultanato delle donne, 1550 anni, 1630, questa storia narra, in maniera romanzata, l'incontro tra Hürrem Sultan, alias Cecilia Cayetani, figlia del governatore spagnolo di Reggio Calabria, Don Diego Cayetani, e di Selim il Biondo, giovane principe ottomano di origini veneziane, figlio di Solimano il Magnifico. È un racconto a carattere insieme storico e sentimentale, drammatico e biografico. Descrive la vita di corte a Costantinopoli, gli intrighi, i complotti e gli eventi che portarono all'ascesa al potere di Selim, figlio di Solimano. Antefatto, preambolo storico. Nel corso del 4000 e per buona parte del XVI secolo, le coste ioniche e tirreniche della Calabria rappresentarono il fulcro delle attività commerciali del Mediterraneo. Esse costituivano una via di comunicazione del mondo occidentale con le coste balcaniche, la Grecia e le rotte marittime che portavano in Asia Minore, a Costantinopoli in particolare. Proprio per la loro ricchezza e perché costellate da grandi e piccole città portuali, le zone costiere erano oggetto di attacchi e scorrerie da parte dei pirati, dei turchi saraceni. Fu così che Filippo II d'Aragona decise di edificare torri disseminate lungo tutta la costa, da quella adriatica a quella ionica e tirrenica. La realizzazione fu per anni solo parziale, anche a causa dei cambiamenti politici, e finì per passare sotto il controllo dei feudatari e dei privati, proteggendo i territori più che le popolazioni. Pirati, corsari e saraceni, quindi, potevano ancora compiere le loro incursioni pressoché indisturbati. Gli eventi cambiarono con la caduta di Costantinopoli e l'avvento al potere di Solimano il Magnifico. Questi, dopo essersi alleato con il re francese Francesco Priono contro l'imperatore spagnolo, Carlo V cominciò ad attaccare la Spagna e i suoi viceregni dell'Italia meridionale e della Sicilia. Il 13 giugno 1590, il turco Selim, alla guida di una flotta di oltre 30 galee, sbarcò con 500 uomini a Reggio Calabria. 1. La cosa, vista dal mare, Reggio appariva come una fortezza, con i bastioni a picco sull'acqua. Dietro le mura e i torrioni si aprivano viuzze in tutte le direzioni, costellate di casette bianche. In una di queste viuzze viveva, insieme alla sua famiglia Cecilia, una ragazza di 18 anni, figlia di Diego Cayetani, governatore di Reggio. Sulla ragazza, più di un giovane reggino aveva posato gli occhi nella speranza di conquistarla. La sua casa era sulla collina, nel borgo vecchio, dove abitava solo gente del popolo e pescatori. Ma da lassù la vista giungeva oltre Rocca Ionica, un braccio di terra che si allungava nel mare a ponente tra cale, rocce e dune di sabbia. Quel mattino, il 29 luglio dell'anno 1598, l'aria era fresca, benché fosse estate. Pietro Crea, un giovane pescatore di Pellizzari, era intento a tirare le lenze quando ad un tratto vide la cosa. Galeoni di mercanzia non possono essere, pensò. Osservando la forma delle vele e degli scafi e l'inconfondibile mezzaluna sul vessillo, non ebbe più alcun dubbio. Erano galee turche nel mezzo del mare Ionio e si dirigevano a decine verso Reggio. Pietro fece appena in tempo a rientrare nel porto col suo carico di pesce, quando, voltatosi sulla barca, rivide la cosa, alzò le braccia e lanciò un grido. «I turchi! Arrivano i turchi!» 2. Lo sbarco. Erano passati circa 100 anni dall'ultima volta che i turchi ottomani di Mehmed Preromir avevano assalito le popolazioni locali, depredando, portando morte e distruzione e riducendo in schiavitù centinaia di regini. Sulle mura dei bastioni c'erano ancora i segni delle palle delle bombarde turche scagliate 100 anni prima. Marinai, pescatori, soldati del viceré furono rapidissimi. Tutti, in un momento di grande concitazione, accorsero nella piazza grande. Anselmo, cugino di Pietro, urlò: «Alle campagne, a ritirare le bestie! Bisogna portare al riparo le bestie!» Renzo Mezzanino, che di bestie non ne aveva, gridò: «Le barche! Portiamole al sicuro dentro le mura!» Insomma, nel porto e in tutta la città allertata, c'era una grande confusione. Finalmente, accorse anche Don Francisco Alvarez, il comandante dei soldati spagnoli, colui che avrebbe dovuto organizzare la difesa. Si presentò insieme al suo sottufficiale, Alberto Gutierrez, il quale chiese subito ai pescatori: «Avete visto i turchi?» «Sì che li abbiamo visti», rispose il giovane Pietro. «E quanti erano?» «Una 30ina di galee, come da qui a Torre Vecchia», fece lui, allargando le braccia per farsi capire. «Se non facciamo qualcosa per fermarli, saranno qui fra pochi minuti». «E che possiamo fare?» disse l'ufficiale, che sembrò quasi prendersela con i pescatori. «Sono molto più numerosi di noi e ben armati. Mi dite come faremo?» Don Diego Cayetani era un uomo non più giovane, che in passato si era distinto in molte battaglie al servizio del viceré, ma che ora si occupava di amministrare la città. Era un uomo alto, fiero e coraggioso. Stimato dalla popolazione, non era per nulla intimorito dai turchi che aveva combattuto a fianco dei veneziani non molti anni prima. Ordinò subito a tutta la guarnigione, 500 uomini in tutto, di radunarsi in piazza. Poi incaricò il più giovane e il più ardito dei suoi soldati a cavallo di correre ad avvertire le guarnigioni del contingente di Don Pedro di stanza a Milito, affinché accorressero al più presto in soccorso. Infine, ordinò di affondare alcune barche al fine di ostruire l'ingresso dei pirati saraceni in porto e ritardarne l'approdo. Tutti ubbidirono agli ordini del capitano, ma quando fu chiaro che il grosso delle galee turche era ancora in alto mare e che solo due di esse si apprestavano a entrare in porto, Don Felice capì che i turchi volevano parlamentare. 3. La prima galea, la più bella e grande, si fece largo nel porto a colpi di piccone, coi soldati saraceni che sgombravano le barche per preparare lo scalo, facendo un gran fracasso, come se a bordo vi fossero dei demoni. Tale era il rumore che i colpi si potevano udire fino agli uliveti di San Nicola di Asola. Dopo pochi minuti, ecco che sbarcò per primo l'Araldo con a lato l'interprete e il portabandiera, che sorreggeva lo stendardo con la mezzaluna. Poi, accompagnato da suoni di tamburo e di trombe, si fece avanti un giovane alto, biondo, di aspetto principesco, vestito con uno splendido abito bianco a mezze maniche, con in capo un turbante e due pennacchi, uno per lato, carichi di perle che gli scendevano fino alle orecchie. Il grosso dei regini erano radunati in piazza. Altri osservavano dalle terrazze vicine, altri ancora, armati di balestre, guardavano la scena dall'alto delle torri, pronti a colpire. Di colpo nella piazza ci fu un grande silenzio, un misto di timore per la reputazione di ferocia dei turchi e di stupore per la magnificenza e il portamento fiero e nobile del principe saraceno. Giunti davanti al governatore Cajetani e agli altri uomini di punta del Consiglio dei Reggenti, il principe si chinò in segno di saluto. «Un corsaro gentiluomo che saluta con l'inchino non s'è mai visto da queste parti», disse il giovane Pietro D'Antoni all'amico prendendolo per un braccio. «E poi guarda com'è vestito». «Sta zitto», rispose l'amico. «Che ti importa? Ti pare il momento di pensare a come sono vestiti? Quelli sono venuti per farci affette. Vestito così? Ma non capisci? Quello non è un turco qualsiasi. Quello lì è un principe. Lo vedi? Non sembra neanche un turco. Dove si è mai visto un saraceno biondo? Non farti ingannare dalle apparenze», rispose l'amico. «Sarà pure biondo e vestito da principe, ma è pur sempre un saraceno, un pagano uso a uccisioni, rapine e scorrerie. Secondo me questo è tutto un trucco per sorprenderci». A osservare tutta la scena c'era anche la giovane e bella Cecilia, figlia del governatore Cajetani, che insieme alla sua compagna Yolanda se ne stava nascosta su un balcone vicino. «Ma che cosa vorranno questi?» disse Cecilia. «Forse non sono qui per fare la guerra. Dimmi tu che senso avrebbe, se no tutta questa commedia. Forse è solo uno stratagemma, un trucco per distrarci», rispose Yolanda. «Ma hai visto com'è bello quello col turbante? Ma che dici? Sono pagani, feroci assassini e predoni», aggiunse. «Non sono gente come noi. Ma che vuoi che passi nella testa di un Cristo vestito così, con le perle in testa?» Nonostante le apparenze, gli inchini, i sorrisi dei nuovi venuti, tutti i regini erano inquieti, nervosi, ansiosi di udire le parole della delegazione turca. Don Francisco spiava con curiosità ogni mossa dell'Araldo, il quale dapprima fece un po' di preamboli, poi venne al sodo. 4. «Il mio nome è Selim», disse in lingua turca il giovane saraceno col turbante, seguito subito dalla voce dell'interprete. «Sono ammiraglio della flotta ottomana e figlio di Sua Maestà Solimano il Magnifico, grande imperatore d'Oriente. Siamo reduci da una dura battaglia con i genovesi al largo delle coste pugliesi che ci è costata molte vittime e danni alle nostre navi. Non abbiamo alcuna intenzione di farvi del male. Quindi, se ci consegnate la città, vi sarà risparmiata la vita. Se preferite, potrete andarvene lontano con le vostre donne e i vostri figli. Oppure, potete restare e abbracciare la fede di Maometto, unico vero profeta di Dio in tutti i paesi del mondo. In tal caso, nessuno vi farà del male, ma se opporrete resistenza, saremo costretti ad uccidervi tutti». Appena il principe, per voce dell'interprete, ebbe terminato di parlare, vi fu un grande silenzio fra i regini. Passarono alcuni minuti, durante i quali nessuno fiatò. A tutti sembrava di trovarsi in una situazione surreale. D'un tratto si udì qualcosa, come un parlottio tra gli uomini più vicini alla delegazione. Poi, poco a poco, cominciarono a volare alcune grida, come sarebbe a dire andarcene, abbandonare la nostra terra, rinunciare alla fede in Cristo e farci pagani. Seguì un gran vociare di tutti. Ognuno adesso voleva dire la sua. Squillò ancora la voce di Pietro D'Antoni. «E chi dice che moriremo? Abbiamo fucili, cannoni e viveri per resistere a lungo. Morire noi, e se morissero loro invece, io dico che Reggio è casa nostra!» gridò Antonio. «Questo non l'abbiamo stabilito noi, l'ha stabilito il Signore Dio, e quindi noi di qui non ci dobbiamo muovere. Questa è la nostra terra!» Di grido in grido si arrivò alle imprecazioni contro l'araldo, il principe e la delegazione saracena. Poi si udì una voce femminile. «Ben detto!» urlò con voce ferma Cecilia. «Io dico di resistere. Gli uomini del viceré verranno presto a darci manforte. Sconfiggeremo i saraceni e li cacceremo via dalle nostre terre». Il principe volse lo sguardo sorpreso verso la giovane donna che aveva appena parlato e fu subito abbagliato dalla sua bellezza, dalla sua fierezza e determinazione. Se ne restò immobile, pensoso, con le braccia sul petto, come se non si aspettasse una tale reazione da parte della popolazione, ancora meno da una giovane donna. Poi fu la volta del governatore a prendere la parola. Era persona amabile, solita parlare a voce bassa, ma questa volta, per nulla intimorito dal luccichio delle spade dei saraceni, sbalordì tutti e tuonò, quasi fosse il generale Giulio Cesare che parlava ai suoi prima dell'assalto ai Galli. «Sono Don Diego Cayetani, governatore di Reggio per conto, di Sua Cattolica Maestà, eccellentissima Re Filippo II di Spagna», disse rivolgendosi al principe. «Se Selim Pascià vuole impadronirsi di Reggio, provi a prendersela. Troverà pane per i suoi denti!» Non appena il governatore ebbe finito di parlare, vi fu subito nella folla un grande tripudio di approvazione. Il principe ascoltò con calma e paziente raccoglimento la traduzione dell'interprete. Aggrottò la fronte, in segno di disapprovazione. Prima di congedarsi dai regini disse, sfoggiando una perfetta quanto inaspettata padronanza della lingua italiana, e lasciando tutti stupefatti, disse queste parole: «Ho udito abbastanza. Non mi lasciate altra scelta. Che Allah abbia pietà di voi». Era sabato 29 luglio 1998. 5. Subito dopo che il principe e le due galee turche ebbero lasciato la città, la grande porta, la principale via d'accesso a Reggio, fu chiusa. «Alzate i ponti!» gridò il governatore Cayetani. Di rimando, il vecchio Don Felice d'Aragona, capo delle milizie spagnole, gridò: «Calate le saracinesche e chiudete i rastrelli!» Ora la piazza era attraversata da drappelli di soldati armati di fucili che si spostavano di qua di là, disponendosi ai lati del castello, lungo i bastioni e nelle torri poste ai lati, fuori le mura. Intanto, al vespro, a bordo della Tuzla, la nave ammiraglia di Selim, il principe aveva riunito i suoi ufficiali nella sua stanza di comando. «Signori, vi ho qui convocati per spiegarvi il mio piano d'attacco. Se tutto andrà come spero, non ci sarà alcun spargimento di sangue». «Ma mio signore, perché tanti riguardi per un pugno di marinai e pescatori? In passato non vi siete mai curato di risparmiare la vita degli infedeli». «È vero, capitano, ma avete visto e udito anche voi la giovane donna che ha parlato. Ebbene, quella donna deve essere mia. Nessuno le torcerà un capello. Siamo intesi. Lo stesso vale per le popolazioni. Se il mio piano funzionerà, non sarà versata una sola goccia di sangue». «Ma», insistette l'ufficiale, «non avete sentito quel che ha detto il governatore? Si opporranno con ogni mezzo al nostro assalto. Hanno cannoni, armi, uomini. Ci daranno filo da torcere». «Ciò non mi sorprende affatto. Ascolta bene il mio piano, Ahmed. Il governatore ha detto che presto la città sarà raggiunta da rinforzi provenienti dalla guarnigione di non ricordo bene dove, comunque da un paese vicino. Ebbene, col favore delle tenebre, noi sorprenderemo il contingente militare spagnolo e lo disarmeremo senza difficoltà. Ma dovremo agire con grande rapidità e sfruttare la sorpresa. Durante la notte, io con 10 galee mi dirigerò a est. Tu, Ahmed, farai la stessa cosa, ma a ovest. Sbarcheremo alle prime luci dell'alba. Di sicuro non incontreremo alcuna resistenza. Là le popolazioni sono scarse e verranno colte di sorpresa. Poi ci avvicineremo alla città. Io da est e tu da ovest. Bloccheremo ogni via d'accesso alla città. Ci nasconderemo e tenderemo un agguato ai danni dei rinforzi spagnoli. Ripeto, dobbiamo agire con grande rapidità, sfruttando le tenebre. Sorprenderemo lo squadrone di cavalleria del viceré, prendendolo tra due fuochi. Al resto, penserò io. E come pensate di introdurvi entro le mura, signore? Fingeremo di essere uomini del viceré venuti in soccorso alla città. E ci faremo aprire le porte. Se questo tranello funzionerà, prenderemo la città in un battibaleno e senza spargimento di sangue. Vedete, i regini ci aspettano dal mare. Non sospetteranno mai di venire attaccati alle spalle. Sì, ma se non dovessero cadere nel tranello e non ci aprissero le porte, solo allora porremo assedio alla città, da mare e da terra. Non temete. Fate come vi ho detto. Se tutto andrà come prevedo, la città sarà nostra entro domani sera. Sei, alle prime luci dell'alba, una decina di galee turche, al comando del principe Salem, si mosse in direzione est, verso Calafiore. Altre 10, comandate dal capitano Ahmed, navigarono a ovest di Reggio e approdarono in località Pellaro. Aiutate dal mare calmo e dalla natura di quelle coste, caratterizzate da estese spiagge sabbiose, facilmente accessibili da ogni lato, quello tirrenico e quello ionico, le galee comandate da Salim il Biondo, furono le prime a gettare l'ancora sulla spiaggia calabra di Calafiore. Come aveva previsto, Selim non trovò ad attenderlo alcun ostacolo e in breve tempo, seguito da oltre 100 cavalieri saraceni, si diresse al gran galoppo verso la porta sud di Reggio, raggiungendola in poco meno di mezz'ora. Giunto nei pressi della città, Selim fece accendere un grande fuoco per segnalare all'altro contingente turco proveniente dalla costa ionica che tutto era pronto per l'azione. Pochi minuti dopo, il capitano Ahmed rispose al segnale, appiccando a sua volta un altro grande fuoco ben visibile dalla parte opposta. Intanto, la truppa del contingente spagnolo, guidata da Don Pedro Hernández, proveniente da Milito, avanzava a sua volta verso la porta sud di Reggio Ignara del Tranello. Giunta a circa 2 chilometri dalla città, il gruppo di soldati saraceni, guidato da Selim, si parò davanti, impedendo agli spagnoli di avanzare. «Alto là, capitano! Da qui non si passa! Deponete le armi e arrendetevi! Siete circondati!» Il comandante degli spagnoli si guardò intorno e vide che era circondato da ogni lato da guerrieri saraceni in numero almeno 2 volte superiore a quello dei suoi uomini. «Chi siete?» chiese Don Pedro. «Sono l'ammiraglio Selim, figlio del sultano Solimano, il Magnifico, imperatore d'Oriente. Che volete?» «Siamo qui per visitare la bella città di Reggio. Ma non preoccupatevi, prenderemo quel che ci serve e toglieremo il disturbo. Non abbiamo alcuna intenzione di farvi del male, né a voi né alla popolazione. Ora, se vorrà aiutarci a entrare in città, le saremo molto grati. Diversamente, saremo costretti ad usare metodi più convincenti». «Come mai parlate la mia lingua, signore? Sono veneziano da parte di madre. Ecco perché non desidero che vi sia fatto del male. Allora, vi arrendete? Solo a patto che non sarà fatto del male ai miei uomini e al popolo di Reggio. Questo dipenderà anche da loro. Comunque, avete la mia parola. Mi sembrate un uomo ragionevole, signor Pedro. Ora consegnateci le vostre armi senza opporre resistenza. Dite, conoscete per caso la figlia del governatore Cayetani? Cecilia? Si chiama così? Sì, è mia nipote. Vostra nipote. Ma allora è tutto più facile. Oggi Allah è generoso con me. 7. Mentre gli spagnoli deponevano le armi e venivano catturati e disarmati, Selim continuò ad interrogare l'anziano ufficiale spagnolo. «Ditemi, capitano, vuole essere così gentile da presentarmi la signorina Cecilia? Io? Presentargliela? Sì, non siete forse suo zio? Non siete forse un gentiluomo spagnolo? Sì, ma non capisco. Che volete da lei? Voi non la conoscete. Cecilia è una donna fiera e caparbia. Non accetterà mai di lasciarsi sedurre da voi. E chi ha detto che intendo sedurla? Allora che volete da lei? Voglio che sia mia sposa. Cosa? Sì, ha capito benissimo. Non accetterà mai. Non è una donna qualsiasi. È promessa sposa al conte di Eboli. Non mi importa di chi è promessa sposa. Ora ci sono io. Intende forse rapirla? Solo se necessario. Ma sono certo che lei e suo padre saranno più propensi a concedermela in sposa quando sarò entrato in Reggio con i miei uomini. E come intende entrare in città? Con il suo aiuto, naturalmente. Cioè, che cosa intende fare? È molto semplice. Ora lei e uno dei suoi sottufficiali vi avvicinerete alla porta di Reggio e vi farete aprire. Io e i miei uomini saremo alle vostre spalle con le balestre puntate sul vostro illustrissimo derrière. Se reciterete bene la vostra parte, i regini ci faranno entrare e nessuno si farà male. Vedrà, questo passerà alla storia come il più incruento assalto dei saraceni ai danni di una città cristiana. 8. Così fu. Quando i soldati regini aprirono le porte ai soldati, convinti si trattasse dei rinforzi spagnoli, di colpo il piccolo esercito saraceno invase la città, cogliendo Reggio di sorpresa. Nel frattempo, il resto delle forze turche che attendeva al largo del porto, in pochi minuti, penetrò in città. I regini furono disarmati e costretti alla resa. Poco più di 200 saraceni avevano avuto la meglio su oltre 500 soldati spagnoli. Di colpo la città, tratta in inganno, si ritrovò alla mercé dei turchi. Il governatore, i reggenti, il capitano Don Pedro furono tutti tratti in arresto e imprigionati entro le mura del castello. Il piano di Selim aveva funzionato. Ora non gli restava altro che saccheggiare la città e impadronirsi dei suoi beni preziosi, ma non prima di aver trovato Cecilia. Così, accompagnato da alcuni fedelissimi soldati che componevano la sua guardia personale, si recò nel palazzo del governatore, nell'abitazione di Cecilia. Sorprese alcuni dei suoi uomini intenti a razziare e depredare gli appartamenti. Uno di loro tirava Cecilia per i capelli e la colpiva con violenza. «Fermati! In nome di Allah!» urlò Selim al soldato saraceno, afferrandolo per un braccio. «Come osi disobbedire ai miei ordini? Ti farò frustare a sangue! Via di qua, subito!» «Signorina Cecilia, vi hanno fatto del male quei bruti!» «Ah, siete voi! Avevate promesso che non ci avreste fatto del male se ci fossimo arresi!» «Quegli uomini pagheranno cara la loro disobbedienza, ve lo prometto!» «Che ne è di mio padre e della mia famiglia? Giuro che se gli avete fatto del male io vi...» «No, state tranquilla, signorina. Sono al sicuro. Venite, vi porterò da loro.» 9. Preso possesso del castello, Selim fece convocare i reggenti della città nella grande sala dei ricevimenti. «Benvenuti nel mio nuovo castello, signori», disse Selim compiaciuto. «Davvero bello. Complimenti ai vostri architetti. Come vi avevo promesso, ho fatto il possibile per evitare ogni spargimento di sangue e ho mantenuto la mia parola. Ora mi aspetto che facciate altrettanto.» «Che volete dire?» lo interrogò il governatore. «Desidero avere in sposa la vostra amabile figliola, la splendida Cecilia.» «Ma chi vi ha messo in testa questa idea? Mia figlia è promessa in sposa al conte di Eboli. E chi sarà mai questo conte dei miei stivali al confronto della magnificenza della corte del grande Solimano che qui mi onoro di rappresentare? Intende forse rapire Cecilia. Questo era l'accordo. Lei non accetterebbe mai di venire a Costantinopoli con le buone. Avrei potuto razziare e depredare Reggio. Non l'ho fatto per rispetto di Cecilia. Capite che per me rinunciare al bottino è un grande sacrificio. Sono un ammiraglio del sovrano, ma sono pur sempre un corsaro. Che dirà mio padre quando mi vedrà tornare a mani vuote? Avete parlato con Cecilia di questo, delle vostre intenzioni? No, non ancora. Lo farò quanto prima. Credete davvero che accetterà? Non ha scelta. O sarà mia sposa, o diventerà concubina del sovrano mio padre che ha 70 anni. Secondo voi, cosa sceglierà? Conoscendo mia figlia, cercherà di fuggire. E forse si lascerà morire piuttosto che diventare vostra schiava. Chi ha parlato di schiavitù? Cecilia sarà mia sposa e un giorno diventerà regina. Non capite? Mia figlia Cecilia non si assoggetterà mai a voi. Non abbraccerà mai la vostra fede. È troppo fiera e caparbia per diventare una moglie devota a voi e al vostro Dio. Tanto peggio per lei. Capirà con le buone o le cattive che è cambiata la musica. Ora basta con questa commedia. Andate. Domani stesso partiremo per le coste turche e Cecilia verrà con me, dovessi incatenarla. Piegherò quella donna al mio volere, le piaccia o meno. 10. Alle prime luci dell'alba del giorno dopo, Reggio si risvegliò in mano turca. Cecilia aveva passato la notte chiusa nella sua stanza, sorvegliata a vista da 2 guardie saracene, così come aveva ordinato il principe. Fu proprio lui, il primo, a farle visita. «Buongiorno, signorina Cecilia. Dormito bene? Non ho quasi chiuso occhio. Come vuole che abbia dormito, dopo quello che avete fatto alla mia famiglia e alla mia città? Ma io non ho fatto proprio nulla. Ho mantenuto la mia parola. Nessuno di noi porterà via una sola moneta dalle casse dei reggenti, né a loro né all'ultimo dei pescatori. Dopo la nostra partenza, Reggio tornerà a vivere e a prosperare come prima, forse meglio di prima. Intendo stabilire buoni rapporti con vostro padre. Mi pare una brava persona, come lo è vostro zio, che si è gentilmente offerto di aprire le porte della città al mio esercito. Lo avete tratto in inganno. Siete un bruto, un pirata, uno scaltro mascalzone. Come potete accusarmi di questo? Ho preso la città senza spargere una goccia di sangue. Vi pare poco? Questa si chiama perizia militare, altro che. Chiamatela come volete. Avete preso la mia Reggio con l'inganno e il sotterfugio. Dio non vi perdonerà mai. Dio forse no, ma voi? Io? Che c'entro io? Ho fatto tutto questo per voi. Che volete che vi dica? Sono lusingata, ma io sono già impegnata con un altro. Il famoso conte di Eboli? Proprio lui. Come lo sapete? Me ne ha parlato vostro zio. E ditemi, lo amate? Il conte? E chi lo ha mai visto? È un uomo molto ricco e potente alla corte di Re Filippo. Anche io lo sono, se è per questo. Anzi, sono erede al trono dell'impero ottomano. Vi pare poco? E con questo siete pur sempre un saraceno. Io non sono come gli altri, come mio fratello e le mie sorelle. Ho avuto un precettore veneziano. Conosco la storia e la filosofia occidentale. Ho letto Dante, Petrarca, ma Boccaccio è il mio preferito. Già, chissà perché, disse Cecilia, lasciandosi sfuggire un sorriso. Perché ridete? Che Boccaccio sia uno dei vostri autori preferiti non mi sorprende affatto. Sembrate proprio un personaggio boccaccesco. Siete più bella quando sorridete. Non ti azzardare a corteggiarmi. Con me non funziona. Funziona e come? Mi stai dando del tu. Non sei che un volgare pirata. Ecco perché ti do del tu. Un pirata. Te l'ho già detto. Non ho rubato un soldo ai regini. Hai rubato e saccheggiato altre città. Non è il mio stile. Sono un ammiraglio, non un volgare pirata. Le scorrerie le lascio agli altri. Se proprio vuoi saperlo, cara Cecilia, quando sarò sovrano, io trasformerò il mio in un paese moderno, progredito e civile. Illuso. So bene come trattano le donne nel tuo paese. Tutto questo cambierà, anche grazie al tuo aiuto. Il mio aiuto? Che c'entro io? Vuoi essere mia sposa? Ma non ci penso nemmeno. Non ti basta esserti impadronito della mia città? Ora vuoi impossessarti anche di me? Perché parli di possesso? Io non voglio essere il tuo padrone. Voglio che tu sia la mia Beatrice, la mia Giulietta, la mia regina. Pensa, da regina a regina, ti pare poco? Spiritoso. Intanto mi vuoi rapire contro la mia volontà. Ma se ti avessi invitata con le buone, tu avresti forse accettato di venire con me a Costantinopoli senza fare storie? Certo che no. E allora? Lo vedi? Non mi lasci altra scelta. Sarai mia, che tu lo voglia o meno. Ecco, appunto, non sei un gentiluomo e non lo sarai mai, per quanto tu finga di esserlo. Lo vedremo. Ora basta chiacchiere. Preparati a partire. Fatti trovare pronta entro mezz'ora. Altrimenti, darò ordine ai miei uomini di portarti via con la forza. E ti avverto. I miei uomini non sono gentili come me. 11. A bordo della Tuzla. Selim e Cecilia salparono dal porto di Reggio nelle prime ore del mattino del 28 giugno 1706, con al seguito 30 galee cariche di un grosso bottino accumulato dopo mesi di razzie ai danni delle popolazioni delle isole dell'Egeo e di quelle residenti lungo le coste dell'Albania, della Puglia e dell'Alta Calabria. Quando Cecilia vide i numerosi sacchi ricolmi di monete d'oro, gioielli, pietre e stoffe preziose, polvere da sparo ed armi, lingotti d'oro, spezie e quant'altro stipate nelle stive della nave e anche schiavi in catene, capì che Selim l'aveva ingannata. «E così tu non saresti un corsaro? Che l'apparenza non ti inganni. Quello che vedi sono tributi e doni per il grande sultano Solimano, mio padre. Vuoi forse farmi credere che tutto ciò non è il frutto di saccheggi e ruberie? Il nostro impero è immenso». Va dalle porte di Vienna alle dune del deserto d'Arabia. Ovunque andiamo, noi turchi offriamo protezione e cibo ai popoli meno fortunati e ai fratelli musulmani più bisognosi del Nord Africa e del Medio Oriente. Togliamo ai ricchi possidenti cristiani per dare ai più poveri. Non mi imbrogli. Io ho sentito le testimonianze delle devastazioni e delle uccisioni dei turchi saraceni ai danni di inermi popolazioni lungo le coste del Mediterraneo. Come ti dicevo, non è mio compito razziare e depredare. Non approvo questa usanza, ma per ora non posso fare nulla per cambiare le cose. Ricorda, io sono un ammiraglio della flotta ottomana agli ordini di mio padre. Il mio compito è di pattugliare il Mediterraneo e mantenere buoni rapporti tra i paesi che compongono il nostro impero. Abbiamo discreti rapporti persino con i veneziani, con i quali in passato ci siamo scontrati più volte. Anche loro hanno per anni ucciso, devastato e depredato tutte le popolazioni lungo le coste dell'Adriatico. Non hanno esitato ad uccidere e depredare Costantinopoli quando era cristiana. Non farti illusioni. Tutte le grandi potenze del Mediterraneo hanno costruito le loro fortune con la spada, piuttosto che con la propagazione dei Vangeli e i commerci. Detesto ogni forma di tirannia. Quando diventerò imperatore, lascerò a tutti la libertà di fede. Cristiani e musulmani potranno vivere in pace, senza sbranarsi a vicenda. In fondo, da quando mia madre ha di fatto preso in mano le redini del comando, tutto ciò di cui parlo si è già in parte realizzato. Sciocchezze. A Reggio vivevamo in pace. Gli spagnoli non ci davano fastidio. Poi siete arrivati voi saraceni a rubare, uccidere, a costringerci alla schiavitù. Tutto questo finirà, te lo prometto. Parlami di tua madre. Che tipo è? Mia madre è una donna straordinaria. Vedrai, voi due andrete d'accordo. In fondo in te c'è un po' di lei. Anche per questo mi sono perdutamente innamorato di te. Ma che amore è amore. Io e te siamo molto diversi. Fattene una ragione. Anche i nostri popoli lo sono. Quanto credi che durerà il tuo sogno? È vero. Io e te siamo diversi, come lo erano mio padre e mia madre. Eppure ora sono insieme e si amano. Vedi, mia madre è una donna straordinaria. Lascia che te ne parli. 12. Sofia, mia madre. Sofia, Sofia, in turco, è una nobildonna veneziana molto intelligente e astuta, il cui ruolo, all'interno della corte dell'imperatore, è molto apprezzato, ancor più dei vari visir, funzionari e ministri dell'impero più o meno accreditati, più o meno fedeli al sultano. Mia madre è persino amica della regina d'Inghilterra. Inoltre, è in ottimi rapporti anche con i medici di Firenze e il re di Francia e con Venezia, naturalmente. Da quando mia madre è sposa del sultano mio padre, i rapporti con la Serenissima sono molto migliorati. Con Caterina de' Medici ha un'amicizia particolare. Condividono lo stesso temperamento, astuzia, competenza, saggezza e intuito. Capisci che con una madre così, il mio ruolo di ambasciatore è di gran lunga facilitato. Ha un ruolo di primo piano nell'indirizzare le scelte di mio padre. Lui stesso si fida di lei e la lascia fare, anche perché lui pensa solo all'harem. A mangiare, a fare nuove guerre, nuove conquiste e ad accumulare sempre più ricchezze. È mia madre, la vera artefice delle nostre fortune. Mio padre rappresenta il peggio della tradizione, il vecchio che non vuole lasciare il posto al nuovo. governa l'impero con il pugno di ferro e non si cura affatto dei suoi sudditi. Mio padre è solo un grasso puttaniere dedito agli ozi e ai piaceri della carne, uno spiacevole esempio di dissolutezza. Infatti preferisce di gran lunga i piaceri del vino agli affari di Stato. Inoltre è debole e vile. Diamine, non hai un'alta opinione di lui? No, affatto. E tu? Non hai preso da lui? Per nulla. Da lui mi separa tutto, a partire dai suoi vizi e le sue scarse virtù morali. Avrai già sentito parlare della legge del fratricidio? No. In sostanza, mio padre e i suoi predecessori hanno la barbara usanza di uccidere tutti i neonati maschi avuti dalle sciagurate relazioni con le loro concubine. Io ho la fortuna di essere il primogenito maschio e di essere unico erede al trono. Ma quale sarà il destino di mio fratello Murad? D'altro canto, mentre noi parliamo, lui stesso e sua madre potrebbero tramare per eliminarmi. Capisci che usanza barbarica? Ma allora, come puoi aspettarti che io possa vivere con gente così? Tutto questo cambierà quando io erediterò il trono e tu sarai la mia consorte. Ancora con questa storia, cosa ti fa pensare che io accetti di diventare tua sposa? Innanzitutto, io non sono come mio padre. In secondo luogo, tu, se lo vorrai, non dovrai vivere a corte. Vedi, io vivo in un magnifico palazzo, circondato da bei giardini. Già me lo immagino. Tanti schiavi al tuo servizio e concubine a sollazzarti. È questo il destino che mi attende? Ma no. Che dici? Chi mi garantisce che tu non diventerai come tuo padre? Tante cose. La mia storia, le mie vicende personali, la mia indole, la mia cultura, il mio profilo, i miei viaggi, le mie frequentazioni, gli insegnamenti di mia madre e soprattutto l'amore che provo per te. Fu a quel punto che Selim cercò di baciare Cecilia, ma lei, con uno scatto felino, si ritrasse e colpì il volto del pascià con un sonoro ceffone. «Ma che ti prende? Non ti azzardare a toccarmi, brutto filibustiere d'un saraceno! Se credi di abbindolarmi con i tuoi modi suadenti, ti illudi. Cos'altro devo fare per convincerti della sincerità dei miei sentimenti? I tuoi sentimenti, dei tuoi sentimenti, non so che farmene. Tu non conosci l'ABC del corteggiamento. Dici di aver letto Dante e Petrarca, ma dell'amore, di come si conquista veramente il cuore di una donna, non sai nulla. Presumi di essere un gentiluomo, ma allora comportati come tale. Se davvero mi vuoi bene, lasciami andare. Senza libertà non può esservi amore. Pensi che costringendomi a vivere con te io ti possa amare? È accaduto a mia madre. Come puoi pensare una cosa simile? Che tua madre possa amare un mostro come tuo padre? Tu ami forse tuo padre? Ma è diverso. Lui non è solamente mio padre, è il mio sovrano. Gli devo rispetto e obbedienza. Ecco, lo vedi. Non sei molto diverso dagli altri sudditi. E se tuo padre mi volesse come sua concubina? Del resto, lui non si è comportato molto diversamente con tua madre. Non era forse sua schiava prima di diventare sua sposa? Sì, ma è diverso. Tu non sarai mai mia schiava. Te l'ho già detto. Ti voglio bene e desidero che tu sia mia sposa. E per dimostrare il mio amore, consentimi di farti dono di questo anello. Un anello? non un anello qualsiasi. Questo è un anello con smeraldo e diamanti. È uno dei gioielli più belli e preziosi che esistano. Il colore verde, infatti, è simbolo di speranza e fiducia nel futuro. È bellissimo. Mi confondi, Selim. Sono senza parole. Allora accetti? Selim, te l'ho già detto. Se davvero mi ami, fa la cosa giusta. Lasciami andare. 13. Cecilia tenta la fuga. Nelle prime ore del pomeriggio, a poche miglia da Creta, il cielo si annuvolò. In pochi minuti, una furiosa tempesta si abbatté sulla flotta saracena, costringendola a fare sosta sull'isola, da anni ormai in mano turca. Mentre erano in corso le operazioni di sbarco, Cecilia, approfittando di un momento di distrazione di Selim, riuscì a fuggire e far perdere le sue tracce. Selim sguinzagliò le sue guardie per tutto il porto di Kissamos alla sua ricerca. Rintanatasi nella buia cantina di una bettola nei pressi del porto, Cecilia se ne stava nascosta in attesa che la flotta turca e Selim ripartissero senza di lei. All'improvviso, tre marinai turchi semi-ubriachi sbucarono dalla taverna. Uno di loro voltò l'angolo e si avvicinò a Cecilia, ignaro della sua presenza. Poi abbassò i pantaloni e cominciò ad urinare proprio dove si nascondeva la ragazza. Cecilia, spaventata, si voltò di scatto e lanciò un urlo. «Ah, lurido porco! Attento a dove pisci!» Il marinaio turco trasalì. Si avvicinò al buco da dove aveva udito provenire quella voce di donna e quando si avvide che si trattava di una ragazza, strabuzzò gli occhi. Poi, per richiamare l'attenzione dei suoi compagni d'osteria, cominciò a strillare come un ossesso. «Che hai da sbraitare?» chiese al compagno, che nel frattempo si era tirato su i pantaloni e ora non toglieva un attimo gli occhi di dosso da Cecilia. Intanto la ragazza se ne stava nascosta nel sotterraneo pensando di essere al sicuro, quando all'improvviso l'uomo l'afferrò per i capelli, la sollevò di peso e la trascinò per qualche metro. «Guarda un po' cosa ho trovato! Lasciatemi andare, o strillo!» disse Cecilia. «Strilla, strilla pure!» «Ehi, voi!» disse ai suoi compari. «Venite un po' a vedere, è una ragazza! Guardate com'è bella! Avrà sì e no 18 anni, che fortuna che abbiamo avuto!» «Lasciatemi andare, ho detto! Se no chiamo aiuto!» «Ma che dice? Voi la capite? Non è di qui. Secondo me è veneziana.» «Veneziana? E che ci fa qui?» «Ma che ci importa da dove viene?» fece l'altro, che dei tre era il più scaltro. «Ora ci divertiamo un po'. Prendetela per le braccia e trascinatela in fondo al vicolo. Lì potrà strillare quanto vorrà che tanto nessuno la sentirà.» Così dicendo, i due afferrarono Cecilia per i capelli e la trascinarono per alcuni metri, mentre lei si dimenava e gridava disperatamente: «Lasciatemi andare, bastardi!» Ma nessuno dei tre l'ascoltava, ed anzi, uno ad uno, si prepararono a compiere l'atto orrendo. Uno di loro si abbassò i pantaloni e si avvicinò a Cecilia, mentre gli altri bruti la immobilizzavano. Il marinaio stava già per gettarsi addosso alla ragazza, quando all'improvviso una lama di coltello gli trapassò la gola. Dalla ferita cominciò a fuoriuscire copiosamente il sangue, che si riversò sul volto di Cecilia. Alla vista del sangue, la ragazza, ormai in preda al panico, lanciò un urlo disperato. poi svenì. Il corpo senza vita del marinaio rovinò a terra, mentre gli altri due se la diedero a gambe terrorizzati. «Cecilia, dov'eri finita?» «Sei tu, Selim», disse Cecilia riavendosi. «Abbracciami, ti prego. Ma si può sapere che ti è saltato in mente di scappare via? Non lo sai che questi luoghi non sono sicuri per una giovane donna come te? Sei fortunata che ti ho ritrovata. Quegli uomini avrebbero approfittato di te, poi ti avrebbero uccisa, oppure ti avrebbero rapita per venderti in qualche mercato degli schiavi. Che è esattamente quello che vuoi fare tu? Ma che dici? Questo è il ringraziamento per averti salvata la vita? Hai ragione, scusa. Forse ti ho giudicato male. Direi. Era ora che tu lo capissi. Andiamo via di qua. La tempesta è finita. Il mare si è calmato. Possiamo riprendere il nostro viaggio. Vieni, torniamo a bordo. Potrai lavarti e cambiarti d'abito. Ma promettimi una cosa. Cosa? Niente più fughe, intesi? Va bene. Promesso. Selim aiutò Cecilia a rialzarsi e l'accompagnò verso le navi turche. Seconda parte. 14. Top Capi, il Palazzo Imperiale. Nel 1598, l'anno in cui si sviluppa questa storia, l'impero ottomano era già fortemente influenzato dal Rinascimento europeo. Dal canto suo, Costantinopoli era già una capitale cosmopolita e forse la sola ad avere una larga apertura sul mondo. Il Palazzo Imperiale era un magnifico edificio a due piani, con terrazza sul giardino, costruito nel punto più alto del promontorio e quindi in grado di offrire una veduta impareggiabile sul Bosforo ed il Mar di Marmara. Il pian terreno era adibito a funzioni di servizio, mentre il primo piano loggiato era diviso in quattro appartamenti di lusso. Tutte le stanze presentavano aperture monumentali unicamente rivolte al terzo cortile. Ai tempi di Solimano l'impero ottomano, fortemente centralizzato e senza frazionamenti, era il solo impero veramente internazionale e senza pari tra le nazioni europee. L'Europa stessa e il Rinascimento europeo avevano a loro volta largamente beneficiato dell'apporto culturale di uomini insigni venuti da Costantinopoli. Avendo Costantinopoli come capitale un'enorme influenza sul Mediterraneo e sull'Oceano Indiano, l'impero fu centro di scambi tra Oriente e Occidente. La vita alla corte di Solimano era caratterizzata da una rigida gerarchia sociale, con il sultano al vertice e i membri della sua famiglia e della nobiltà subito sotto di lui. La corte era composta da un gran numero di funzionari, tra cui i visir, i giudici e i governatori delle province. La vita quotidiana alla corte di Solimano era molto regolamentata. I membri della corte si alzavano presto per partecipare alle preghiere del mattino e poi si dedicavano alle loro attività quotidiane. Così si presentava Costantinopoli agli occhi di Cecilia, allorché ella vi pose piede per la prima volta. 15. L'incontro con Sofia. Giunti a Costantinopoli, alle prime luci dell'alba, Selim venne accolto dalla popolazione come un eroe. Dal canto suo, Cecilia rimase subito affascinata dalla bellezza e dalla magnificenza del Top Capi, il palazzo del sultano. A ricevere Selim e Cecilia per prima fu Sofia, la madre di Selim. «Bentornato», disse la donna abbracciando suo figlio. Com'è andata? È andata bene, rispose lui sorridente. Anzi, meglio del previsto, come puoi vedere. Chi è questa graziosa fanciulla? Ti presento Cecilia Cayetani, figlia del governatore di Reggio. Encantado de conocerla, signorita. Madre, Cecilia parla l'italiano meglio di me. Ah, bene. Piacere di conoscerla, signorina Cayetani. Fatto buon viaggio? Non esattamente, ma non importa. È questa la sua prima volta a Costantinopoli? Sì, è la prima volta in tutto l'Oriente. Beh, a Costantinopoli siamo fortunati. Siamo a un passo dalla Grecia, circondati da un mare splendido, anzi due, da incantevoli paesaggi e importanti vestigia storiche. Vedrai, Cecilia, ti troverai bene qui. Come vi siete conosciuti tu e mio figlio? Lui non mi aveva mai parlato di te. Suo figlio era troppo occupato a razziare e ad accumulare ricchezze per badare a questi dettagli. In fondo, io faccio parte del suo bottino di guerra. Santa Vergine, che temperamento! Dove l'hai trovata una così, figlio caro? Mi ricorda molto qualcuno che conosco bene. Chi? Chiese Cecilia. Io, quando avevo la tua età. Cecilia si trovò subito a suo agio al cospetto della madre di Selim. Alta, bionda, 50 anni circa, ai suoi occhi appariva come una perfetta nobildonna veneziana, come se gli anni passati alla corte dei Saraceni non avessero per nulla intaccato il suo profilo, il suo contegno e portamento. Selim mi ha parlato molto di lei, disse Cecilia, della sua nuova vita qui a Costantinopoli, della sua vita precedente a Venezia e delle sue frequentazioni di alto profilo. Gli affari di Stato sono solo un passatempo, ma da quando mio marito ha smesso di occuparsene, sono diventati quasi un obbligo. Non mi lamento. Mi piace viaggiare, conoscere altri paesi, altre culture. Mio figlio è come me. Siamo fatti della stessa pasta, io e lui. Vedrai, ti tratterà con rispetto. Non temere. E se dovesse mancarti di rispetto, ci sono qua io. Dopotutto sono sua madre. Ora venite, andate a rinfrescarvi, vi farò preparare del cibo. Poi ti mostrerò la tua stanza. La mia stanza? È più prudente che tu rimanga qui da me, nel mio appartamento privato, nella stanza degli ospiti. Per ora è meglio che la corte non venga a sapere di te. Vedi, mio figlio è stato promesso sposo alla figlia del re di Valacchia. Valacchia? Dov'è? Vicino alla Bulgaria. Non mi avevi detto nulla, Selim. Se mio padre, il sultano, venisse a sapere di te, potrebbe non gradire. Gli diremo che sei una mia concubina. La tua concubina? Una specie di schiava, dunque. No, spiegò Sofia. Tranquillizzati, tu non sarai mai una schiava qui da noi. Agli altri faremo credere che sei una concubina, ma noi ti tratteremo con il massimo rispetto, come si conviene ad una dama di corte. Mi sono spiegata. 16. Cecilia, che non si aspettava un'accoglienza così calorosa da parte di Sofia, non tardò a trovarsi a suo agio nel palazzo del principe Selim, suscitando fin da subito le diffidenze e le invidie dei gran visir, consiglieri del sovrano, e dei giannizzeri, potenti funzionari al servizio di Solimano. Intanto, anche i rapporti tra lei e il principe ereditario erano mutati. Dal canto suo, Selim non aveva mai conosciuto una donna come Cecilia, forte, fiera, generosa, determinata e integerrima. Era proprio come sua madre quando aveva la sua età. Per questo, ed altre ragioni, era fortemente attratto da lei, al punto di sfidare le ire del sultano suo padre, che aveva per lui e il suo futuro ben altri progetti. Capiva bene i dubbi e le ansie che assillavano Cecilia. Prima o poi, Solimano avrebbe saputo della sua presenza a palazzo. Inoltre, per quanto magnifica e raffinata, la vita alla corte di Solimano era tutt'altro che idilliaca. Gli intrighi, la corruzione e i frequenti assassini più o meno mascherati rendevano la vita a palazzo poco salubre. Quello di corte era un ambiente infido nel quale nessuno poteva dirsi al sicuro, neanche Selim, che pure era l'indiscusso erede al trono. In particolare, il suo fratellastro Marud, appena diciottoenne, già aveva già mostrato in più occasioni di essere abile e astuto e di avere interesse a prendere il suo posto per ricoprire la carica di sultano. Essendo un individuo scaltro e ambizioso, più di un consigliere del sultano aveva suggerito a Selim di sbarazzarsi di lui al più presto, per evitare guai peggiori in futuro. Marud era infatti secondo erede al trono in linea di successione, in quanto figlio di un'altra concubina di Solimano, Mahidevran. Quest'ultima era una donna ucraina piuttosto scaltra e ambiziosa, proprio come suo figlio. Inoltre, era bella, prorompente e intraprendente. Infatti, non tardò a diventare la favorita del sultano. Questi si era ora invaghito di lei a tal punto da preferirla a sua moglie Sofia, che aveva ormai oltrepassato i 50 anni e perso un po' della sua bellezza giovanile. Negli ambienti di palazzo si era anche sparsa la voce che Marud tramasse alle spalle di Selim e che non nascondesse il suo desiderio di prendere il suo posto sul trono del più potente impero d'Oriente. Pur consapevole di tutto ciò, Selim non era per nulla interessato agli intrighi di palazzo, ai piaceri della vita a corte, e preferiva di gran lunga la vita di mare, i viaggi, le relazioni diplomatiche, le avventure. Con i suoi soldati aveva un rapporto solido e leale. Come tale, era da loro apprezzato e ben voluto. Il potere e la carica di sultano non lo interessavano. Per lui, il potere era solo un inutile fardello, una condizione potenzialmente foriera di mille insidie e complicazioni. Come se presagisse i guai che da lì a poco lo avrebbero assalito, cercava di passare meno tempo possibile a Topkapi, la sontuosa dimora del sultano, e di evitare ogni rapporto con il padre. Ma quando quest'ultimo lo convocò a palazzo, il giorno dopo il suo ritorno a Costantinopoli, Selim capì che egli aveva in serbo per lui un'accoglienza particolare. 17. Al cospetto di Solimano. Oltrepassata la sublime porta, situata nei pressi della Basilica di Santa Sofia, ornata di marmi e iscrizioni dorate, recanti versetti del Corano, Selim entrò nella stanza del sultano, suo padre. Questi era seduto su un trono, leggermente rialzato, completamente coperto di stoffe d'oro e interamente incastonato di pietre preziose, con molti cuscini di inestimabile valore su ogni lato. Le pareti della camera erano ricoperte di mosaici decorati d'oro ed azzurro. L'esterno del camino era di argento massiccio e anch'esso ricoperto d'oro. Sul lato della sala spuntava da un muro una splendida fontana. Il soffitto era laccato e tempestato di gioielli, con decorazioni su cui campeggiavano un drago ed un simurgo intenti a lottare. La copertura del trono imbroccato era disseminata di placche di smeraldo, rubino e di perle. Il sultano accolse Selim con queste parole: «Salute a te, figliolo. Com'è andata in Albania? Bene. Anzi, meglio del previsto», rispose Selim. «Come sta quella vecchia volpe di Mustafa? Bene. Ha ottemperato ai suoi obblighi? Ampiamente. 50.000 monete d'oro, argento, preziosi, stoffe e anche qualche schiavo. Ma sulla via del rientro siamo stati avvistati ed attaccati da una flottiglia di navi genovesi, in numero 2 volte superiore al nostro. Ci siamo salvati solo grazie alle nostre galee più veloci delle loro. Ci siamo rifugiati a Reggio. Anche qui abbiamo raccolto un copioso bottino. Bene, mio prediletto, sapevo di poter contare su di te. E che mi dici di Michele? Il voivoda di Valacchia. Proprio lui, sempre riottoso. Sono stato ben accolto da lui, ma proprio non vuole sentir parlare di un'alleanza. Cambierà idea quando sua figlia diventerà tua sposa. Lei mi pare poco propensa, e suo padre ancora meno. Ho ragione di credere che lui punti a conquistare la Moldavia e la Transilvania per formare un unico territorio. L'ho saputo da uno dei suoi generali, un turco, per parte di madre. Questo non potrò mai permetterlo. La Moldavia è nostra. 18. Solimano, il superbo. Ricorda bene, disse Solimano a suo figlio Selim. Noi abbiamo aiutato Michele a salire sul trono. Con noi ha preso un chiaro impegno, e le parole date si mantengono. Non permetterò che venga meno alla sua promessa. Sposerai sua figlia al più presto. Ma padre, come credi che io possa sposare Eleonora, una ragazza che conosco appena e che nemmeno mi ama? Cosa c'entra l'amore? Il vostro matrimonio servirà a suggellare l'alleanza tra l'impero e la Valacchia. Anche a costo di rendermi infelice. Si può sapere che ti prende. Non è necessario che tu e lei vi amiate. L'importante è che facciate dei figli maschi per garantire la discendenza. Per il resto, potrai trastullarti con le concubine, come facciamo tutti noi. A proposito di concubine, mi è giunta voce di una ragazza tua schiava, molto bella, che vive con te. È così. Perché non sono stato informato? Non ne vedevo la necessità. Lascia che sia io a stabilire cosa è necessario e ciò che non lo è. Mi spiace. Non pensavo fosse così importante. Tutti i funzionari e i visir hanno i loro schiavi. Tu stesso hai un centinaio di concubine. Quando tu sarai al trono, potrai decidere ciò che il sultano ha diritto di sapere o meno. A palazzo circolano strane voci, secondo le quali qualcuno starebbe complottando ai miei danni per liberarsi di me. Ne sai qualcosa? No. Hai forse qualche sospetto? Chi può avere interesse a uccidervi? Potrebbe essere una spia di quel Michele, oppure il mandante è da ricercare tra gli Asburgo. Forse è il reggente siriano a tramare ai miei danni, visto che da qualche giorno i mamelucchi di Damasco sono in rivolta. Forse la spia viene da Venezia. Lo escludo. Vostra maestà gode di ottimi rapporti con tutti. Storie. Che mi dici della tua schiava? Non è forse lei la figlia di un governatore spagnolo? Sì, è così. Non siamo forse in guerra con gli spagnoli e gli Asburgo? Sì, è così. Ma lei è solo una ragazza di 18 anni. Devo forse farla torturare un po' per scoprire la verità ed estorcerle una confessione? Ma no, garantisco io per lei. Se vi fosse un complotto ai vostri danni, chiunque sia ad ordirlo, non credete che Sofia sarebbe la prima a saperlo? Non ditemi che non vi fidate neppure della vostra consorte. Di Sofia ho fiducia piena. È la donna che amo. Ecco, dunque perché dubitare? Confessa, figliolo. Cosa? Che sei innamorato di lei, di questa tua nuova concubina. E se anche fosse, che ci sarebbe di male? Dimentichi forse di essere promesso ad Eleonora? Osi forse disobbedire ai miei ordini? Io amo quella donna quanto voi amate mia madre, né più né meno. Non dire idiozie. Comunque ho deciso. Non voglio che tu ti affezioni alla tua schiava calabrese. Per questo partirai domani stesso per domare la rivolta di Damasco. Ma padre, sono appena tornato da una missione nei Balcani. Non discutere i miei ordini. Ora va che ho da fare. Come volete, mio signore. 19. Dopo quella sgradevole conversazione con suo padre, Selim ebbe il sospetto, anzi l'esatta percezione, che egli tramasse qualcosa ai suoi danni, forse per favorire suo fratello Murad alla successione al trono. Ne ebbe conferma dal fido Ahmed, il più leale dei suoi ufficiali di corte, compagno di mille imprese militari. Questi, ormai anziano, era stato trasferito a palazzo ed era diventato capo dei giannizzeri, corpo scelto a guardia del sultano. Ahmed, vecchia quercia, com'è la vita a palazzo? Noiosa e meschina. Già rimpiango le nostre avventure di mare e di terra. Orsù, goditi la vecchiaia. In fondo, hai ottenuto tutto ciò che si può desiderare dalla vita. Hai una bella moglie che ti vuole bene, due splendide figlie, una famiglia che ti sostiene, ricchezze da far gola ad un principe, una dimora degna di un sultano. E di tanto in tanto mi dicono che ti concedi anche qualche trastullo, malgrado l'età. Niente di più falso. Voglio bene a Matilde. Non le farei alcuno sgarbo. Sei un perfetto gentiluomo, che per un vecchio corsaro saraceno suona quasi come un insulto. Ma dimmi, Selim, perché mi hai fatto chiamare? Avrei un piccolo favore da chiederti. Qualunque cosa, purché non si tratti di uccidere il sultano. Oh no, niente di tutto ciò. Per quanto, Allah mi perdoni, io abbia più volte accarezzato questo desiderio. Non dirlo a me. Non perdonerò mai al sultano l'esecuzione di mio fratello Mohammed. Sì, lo ricordo bene. Mio padre lo fece torturare e uccidere solo perché aveva osato innamorarsi di una sua concubina. Quella fu una decisione ignobile da parte del sultano, mio padre. Altro che magnifico. Solimano il tiranno, dovrebbero chiamarlo. Basta così, Selim. I muri del palazzo sono alquanto sottili. Qualcuno ha perso la testa solo al pensiero di potersi liberare di quell'odioso tiranno. Spero solo che tu non diventerai come lui. non c'è pericolo. E dimmi, Selim, che ne è di quella graziosa fanciulla che facesti rapire a Reggio? Cecilia, è proprio di lei che volevo parlarti. In mia assenza, gradirei che qualcuno la proteggesse. Con la massima discrezione, naturalmente. Avevo capito bene, allora. Ti sei innamorato di lei? Temo di sì. Non hai nulla di cui scusarti. L'amore è un sentimento nobile, specie se ricambiato. Sì, giusto. Ma ora la sua vita è in pericolo. Ho ragione di ritenere che Cecilia non sia più al sicuro e che neanche mia madre potrà proteggerla. Perché dici questo? Conosco bene mio padre. Lui sa di Cecilia e dei sentimenti che nutro per lei. E allora? Tu sei al corrente dei piani di mio padre di farmi sposare la figlia del re di Valacchia? No, non ne sapevo nulla. E allora? Che significa? Significa che Cecilia non è più al sicuro, e neppure io lo sono. Spiegati meglio. Non intendo affatto soggiacere agli ordini di mio padre. E lui lo sa bene. Infatti, mi ha mandato a sedare la rivolta dei mamelucchi di Siria. Capisci? Sono appena tornato da una lunga e difficile missione militare nei Balcani. E lui già mi ordina di ripartire per andare a combattere i mamelucchi, feroci banditi del deserto. Guardati le spalle, Selim. Sai bene quanto me che tuo fratello Marud ambisce a prendere il tuo posto sul trono. Non mi sorprenderebbe affatto se i tuoi nemici approfittassero della guerra per liberarsi di te. Del resto, le voci di palazzo confermano questo mio timore. Sì, Ahmed, sono al corrente, ma non temo per la mia vita. So difendermi. Sono circondato da uomini fidati, miei compagni di mille imprese, soldati che darebbero la loro vita per proteggere la mia. Temo piuttosto per Cecilia. Che posso fare? Se a Solimano venisse in mente di rapirla, tu dovrai informare subito mia madre. Poi invierai uno dei nostri soldati più fidati ad avvertirmi. Solo io posso fermare mio padre. Speriamo che tutto ciò non accada. Dobbiamo tenerci pronti per ogni evenienza e anticipare ogni possibile mossa di mio padre. È un uomo scaltro, che non si farebbe alcuno scrupolo. Che intendi dire? Intendo dire che sarebbe disposto anche ad uccidere Cecilia. Quanti uomini sei in grado di mobilitare in poco tempo? Non so. Circa 3.000, credo. Ma sono i migliori, coraggiosi e leali, soprattutto leali. Bene, basteranno. Ho un piano, ma bisogna tenersi pronti. E dimmi, mio caro Ahmed, tu hai accesso alla torre? Vuoi dire alle carceri del sultano? Sì, ho le chiavi. Bene. Sapevo di potermi fidare di te. Sempre. Incondizionatamente. Devo partire oggi stesso. Ora sai cosa fare. Che Allah ci assista. 20. Mentre la rivalità tra Mahid Evran e Sofia andava crescendo, il giorno dopo la partenza di Selim per Damasco, Solimano, approfittando dell'assenza di suo figlio, ordinò ai suoi uomini di prelevare Cecilia e di condurla nel suo palazzo, anche con la forza, se necessario. Benvenuta nella mia modesta dimora, signorina. Qual è il vostro nome? Cecilia. Bene, Cecilia. Siete molto graziosa. Mio figlio non mi aveva detto di voi, ma io so tutto. Non mi sfugge nulla. Ho uomini fedelissimi che spiano ogni angolo del palazzo. La stessa Sofia ha cercato di proteggervi, di nascondervi da me, ma come vedi, mia cara, non è servito a nulla. Da quanto tempo siete a palazzo? Da circa un mese. E come vi trovate? Suo figlio mi tratta con tutti i riguardi, e anche vostra moglie. Bene, ne sono felice. Come forse saprai, mio figlio è in missione in Siria. Mia moglie è impegnata con l'ambasciatore di Venezia. Così ho pensato che io e te potessimo conoscerci meglio. Venite più vicino, voglio vedervi bene. Cecilia si avvicinò con circospezione al sultano. Aveva udito strane storie sul conto di Solimano, che sapeva essere gentile e generoso con i suoi servi più fedeli, quanto severo e feroce con chi gli disobbediva. Così, consapevole dei rischi a cui andava incontro, cercò di tenere un contegno umile e modesto, rivolgendosi a lui in maniera molto ossequiosa. «Sei davvero una splendida creatura», lui le disse. «Non c'è dubbio, mio figlio ha buon gusto, ma come saprai, Selim è promesso sposo della figlia di Michele, re di Valacchia. Quindi tanto vale che tu entri a far parte del mio harem. Quanti anni hai, bella figliola?» 19 appena compiuti. Splendido. E dimmi, sei vergine? Non sono stata con nessun uomo. Neanche con mio figlio. Neppure con lui. Allora, o mio figlio si è rimbecillito o ha acquisito altri gusti. Peggio per lui. Vorrà dire che sarai mia. Mio signore, sono felice che lei mi trovi attraente. Ma suo figlio mi ha promesso che mi sposerà e che non mi toccherà finché io non sarò sua sposa. Allora Selim si è davvero rimbecillito. Mi spiace deluderti, mia cara Cecilia, ma qui comando io. Quando Selim sarà il nuovo sultano, se mai glielo permetterò, potrà fare quel che più gli aggrada. Fino ad allora, tu e lui mi obbedirete, vi piaccia o meno, come fanno tutte le altre. Selim sarà in collera con voi. Non mi importa un fico secco di lui, bisogna che impari a stare al suo posto. Lo stesso vale per te. Non dimenticare che sei una concubina. Sofia lo è stata prima di te e non ha fatto tante storie. Fattene una ragione. Allora, per l'ultima volta, spogliati e indossa questi abiti. No, mio signore, non sono una concubina e non lo sarò mai. Tanto peggio per te. Guardie, portatela via. 21. Mentre a Costantinopoli la situazione di Cecilia andava sempre più peggiorando, Selim, al comando di un'armata di 10.000 soldati, si accingeva a sedare la rivolta delle popolazioni dell'Anatolia orientale nei territori confinanti con la Siria, ora occupati dai mamelucchi d'Egitto. Con un abile diversivo, finse di attaccare Damasco e di cingerla d'assedio. Si accampò per alcuni giorni alle porte della città, facendo credere ai mamelucchi del Cairo di disinteressarsi di loro. Poi, astutamente cambiò repentinamente strategia, dirigendosi rapidamente verso l'Egitto e attaccando di sorpresa i mamelucchi rimasti nel territorio egiziano, mentre il grosso delle loro forze si dirigeva verso la Siria per dare manforte a Damasco assediata. La cavalleria mamelucca non poteva competere con l'artiglieria ottomana e i giannizzeri. Avendo colto di sorpresa i mamelucchi rimasti al Cairo, fu per Selim gioco facile impossessarsi in poche ore della città, ora in gran parte vuota. Poi, tornò a Damasco e l'attaccò dal lato sud, facendo largo uso per la prima volta di armi da fuoco, fra cui il più grande cannone mai visto in quella regione prima d'allora. Nel giro di una settimana Selim, con una brillante operazione di guerra, ebbe ragione dei mamelucchi, pose fine alle loro mire espansionistiche, sedò la rivolta delle popolazioni dell'Anatolia orientale e ristabilì l'ordine ai confini dell'Impero ottomano. La popolarità di Selim ora era tale che anche i giannizzeri, le guardie scelte del sultano, lo ammiravano, lo acclamarono come un eroe e gli giurarono fedeltà. Ma, proprio quando si preparava ad entrare trionfante in Damasco, un messaggero di Ahmed gli comunicò quanto stava accadendo a Costantinopoli, ovvero dell'arresto di Cecilia da parte di suo padre. Selim non perse tempo. Salì in groppa al suo cavallo e si diresse al gran galoppo a Costantinopoli. Ordinò a Kaya, suo fidato generale, di seguirlo fino alle porte della città, di accamparsi a Balak, dall'altra parte del Bosforo, e di attendere il suo ritorno. 22. La mattina del 29 marzo 1592, dopo aver cavalcato quasi senza sosta per 2 giorni e 2 notti, Selim giunse a Costantinopoli. Si recò subito da sua madre Sofia. Madre, cos'è accaduto a Cecilia? Mi dispiace, figlio caro. Gli uomini di tuo padre l'hanno prelevata di forza per portarla a palazzo. E tu? Non hai cercato di fermarli? Io non c'ero. Ero a colloquio con l'ambasciatore di Spagna. Quando l'ho saputo, sono andata subito da Solimano e l'ho supplicato di lasciarla andare. Gli ho spiegato che tu l'ami, ma lui non vuole sentire ragioni. Mi dispiace. Ora che farai? Andrò a palazzo. Cercherò di dissuadere mio padre. Attento, figliolo. Mentre tu eri via, sono successe molte cose. Come sai, io non sono più la favorita del sultano tuo padre. Inoltre, il tuo fratellastro Marud ha convinto tuo padre che tu saresti a capo di un complotto per eliminarlo. Ma è assurdo. Gliel'ho anche detto. Quell'uomo vede complotti ovunque. Io ti ho avvertito, figliolo, non andare a palazzo. Ti farà uccidere. Che ci provi. Io sono pronto. Questa è la sua riconoscenza per aver sedato la rivolta in Anatolia, sconfitto i mamelucchi e conquistato Siria e Egitto. Tu hai fatto tutto questo? Già. E mio padre, per ringraziarmi, che fa? Fa arrestare Cecilia, la donna che amo. Dimentica quella ragazza. Salvati. Lascia la Turchia. Insieme potremo tornare a Venezia. Mio fratello Sebastiano, tuo zio, è stato eletto nuovo doge. Capisci, Selim? Lì saremo al sicuro. Lui ci darà esilio. No. Prima devo salvare Cecilia. Le avevo promesso che non l'avrei abbandonata. Ora lascia che vada da lei, prima che sia troppo tardi. Ma tu preparati a fuggire. Questo posto non è più sicuro neanche per te. Ho un piano. Fuggiremo questa notte stessa. Fatti trovare pronta a mezzanotte, quando la luna è alta nel cielo. Ti nasconderai dietro la vecchia quercia nel cortile centrale. Copriti il viso. Non possiamo correre rischi. Ora va, presto. Aspetta. Sofia si allontanò per alcuni secondi. Poi tornò da suo figlio e gli consegnò una grande borsa. Ecco, prendi questa. Qui dentro c'è un vestito per Cecilia e un copricapo con il simbolo imperiale. Quando libererai Cecilia, le chiederai di indossarlo. L'aiuterà a passare indisturbata. Tutti crederanno che si tratta di me. Bene, lo consegnerai tu stessa ad Ahmed. Ora devo andare. Cecilia è in pericolo. Parlerò con mio padre e lo convincerò a liberarla. Gli racconterò delle mie imprese in Anatolia, in Siria e in Egitto. Me lo auguro davvero. Che Dio ti assista, figliolo. Selim, furioso, si recò alla sede del comando delle guardie del sultano per incontrare Ahmed. Questi gli confermò ogni suo timore. Lo mise in guardia sulla sua intenzione di penetrare nel palazzo del sultano, poiché sicuramente suo padre gli aveva preparato un tranello. «Ahmed, so bene quel che mi attende a palazzo, ma non ho scelta. Devo liberare Cecilia, non importa come. Parlerò con mio padre, dovesse essere l'ultima volta che lo faccio. Mi terrò pronto ad ogni evenienza. Ma anche tu fatti trovare pronto. Se, come temo, dovessi fallire nel mio tentativo di dissuadere mio padre, allora io e te libereremo Cecilia con la forza, se necessario. Ora voglio domandarti un ultimo favore. Se dovessi morire, abbi cura di mia madre e di Cecilia. Portale in salvo. Un esercito di 10.000 uomini mi attende a Barak. Sono gli uomini che ho guidato alla conquista di Siria e Egitto. Tu hai fatto questo? Sì. Forse mio padre sperava che perissi in battaglia. Forse aveva ordinato il mio assassinio durante le operazioni di guerra. Come vedi, non è riuscito nel suo intento. Mi addolora che egli ripaghi le mie imprese militari cercando di uccidermi. Io suo primogenito, suo erede legittimo. Non temere. Gli uomini sono tutti con te. Sei tu il loro capo. Farò come mi chiedi. Ora va e guardati le spalle. 23. Salim è aggredito. Selim attraversò la Orta Capi, cancello del saluto, e giunse all'ingresso del padiglione del sultano. Due guardie lo fermarono. «Sono il principe Selim, figlio del sultano. Chiedo di parlare con mio padre». Passarono alcuni minuti. Poi si presentò Rustem Pasha, grande visir, uomo fidato di Solimano. «Salute a te, principe Selim. Entra pure. Tuo padre ti accoglierà nella sala degli ospiti». Venne condotto in una grande sala dove lui non era mai stato in precedenza. «Accomodatevi», disse il visir. «Il sultano, vostro padre, è stato avvertito del vostro arrivo e sarà qui da voi molto presto. Nel frattempo, gradite un dè?» «Sì». «Volentieri», rispose il principe. Selim si guardò intorno. Si trovava all'interno di una grande e splendida sala che non aveva mai visto prima di allora. Aveva il soffitto verniciato di blu oltremarino e decorato da stelle d'oro. I muri erano ornati con piastrelle turchesi, blu e bianche. Il pavimento era riccamente coperto di tappeti e cuscini. A questo punto Selim si domandò come mai il sultano suo padre non lo ricevesse nelle sue stanze, come era solito fare, e perché lo facesse attendere così a lungo. Poi il visir portò il dè, che versò lui stesso in una coppa argentata, fatto piuttosto inusuale. Selim si guardò bene dal bere il dè poiché sapeva bene che poteva essere avvelenato. Dopo alcuni minuti di snervante attesa, capì di essere in trappola e si preparò al peggio. «Il dè non è di vostro gradimento, Sua Altezza», chiese il visir. «Si può sapere dov'è mio padre?» «Sono 20 minuti che lo aspetto», rispose Selim. «Vogliate pazientare ancora un po'. Vostro padre fa fatica a camminare». Poi, circa un minuto dopo, notò, riflessi sulla superficie lucente della coppa argentata in cui il gran visir aveva versato il dè, i lineamenti sfumati di due uomini che si avvicinavano alle sue spalle con passo felpato. D'un tratto sentì una corda stritolargli la gola con grande forza. Cercò di divincolarsi, ma senza riuscirci. Quasi sopraffatto, riuscì ad allungare un braccio e afferrare distinto la daga che teneva nascosta all'interno dello stivale. La estrasse con rapidità e con un colpo deciso recise i tendini della gamba di uno dei due assalitori che cadde a terra sanguinante. Liberatosi dalla morsa, si alzò rapido e sorprese l'altro uomo conficcandogli la lama nel ventre. Poi fuggì. 24. Prima che il sultano fosse informato dell'accaduto e scattasse l'allarme, Selim raggiunse Ahmed al posto di guardia. «Ahmed, avevi ragione tu. Era una trappola. Mio padre ha cercato di sbarazzarsi di me. Non posso crederci». «Non sarebbe la prima volta. Il padre di Solimano, tuo nonno, fece uccidere i suoi fratelli per poter accedere al trono senza ostacoli. Presto, se vogliamo liberare Cecilia, prima che venga dato l'allarme, dobbiamo affrettarci. Hai le chiavi? Sì, ma cambiati l'abito. Le guardie potrebbero sospettare qualcosa se ti vedessero con indosso i tuoi vestiti insanguinati». «È vero. Non ci avevo pensato. Presto, andiamo». Corsero verso la torre, dove solitamente venivano rinchiusi i detenuti di un certo rango, quelli sul cui destino il sultano non s'era ancora pronunciato. Davanti alla cella in cui era imprigionata Cecilia, Ahmed e Selim trovarono due guardie che scattarono sull'attenti non appena riconobbero il principe e il capo delle guarnigioni imperiale. «Siamo venuti a prelevare la prigioniera. Fateci passare», disse Ahmed. «Mi spiace, signore», rispose una delle due guardie. «Abbiamo ordine di non lasciar passare nessuno, neanche voi, signore. Fatevi da parte o vi faccio frustare. Il sultano ci ha detto che nessuno può entrare tranne Sua Maestà in persona. Come osate disobbedire ai miei ordini?» reagì furiosamente Ahmed, mentre Selim, approfittando della disattenzione delle due guardie, con passo lento si insinuò alle spalle di una di loro. Poi, dallo stivale, sfilò di nuovo la sua daga dalla lama affilata e ancora insanguinata, e con rapidità la portò alla gola della guardia che aveva appena parlato. «Fa come ti dice lui», gli sussurrò in un orecchio, «se non vuoi che ti tagli la gola». L'altro uomo di guardia, colto di sorpresa, non ebbe nemmeno il tempo di reagire che fu subito disarmato da Ahmed. «Ora sparite», disse Selim, «prima che ci ripensi e vi passi a fil di spada». 25. Pochi secondi dopo, penetrarono nella cella di Cecilia. La sventurata fanciulla se ne stava distesa su di un giaciglio, triste e affranta. «Cecilia, mia adorata! Selim, sei tornato finalmente! Cominciavo a temere il peggio. Che ti ha fatto mio padre? Ti ha forse fatto del male? Ha cercato di prendermi con la forza. Voleva che io diventassi la sua concubina, ma io mi sono rifiutata. E lui mi ha sbattuta qui dentro. Presto, intervenne Ahmed, andiamo via da qui. L'allarme potrebbe scattare da un momento all'altro. Tieni, disse Selim, rivolgendosi a Cecilia. Indossa questo. È un abito di mia madre. Ti aiuterà a passare inosservata. Attraversarono il cortile fino a raggiungere la vecchia quercia, il luogo in cui Sofia e Selim si sarebbero dovuti incontrare. Non è qui, disse Selim. Chi aspetti? Mia madre. Ci eravamo dati appuntamento qui, per fuggire insieme da Costantinopoli. Neppure per lei questo luogo è più sicuro. Non c'è tempo. Se veniamo scoperti, saremo spacciati. I miei uomini ci aspettano con i cavalli. Forse siamo ancora in tempo per lasciare la città prima che sia dato l'allarme. Quanti uomini hai a disposizione? Chiese Selim. Una 50. Abili combattenti, fidati e leali. Bene. Affrettiamoci. Giunti alle porte di nord-est, gli uomini di guardia riconobbero il principe e il capo della guarnigione imperiale e aprirono i cancelli per consentire loro il passaggio. Mezz'ora dopo, Selim, Ahmed e Cecilia raggiunsero Incolumi Balak, dove ad attenderli c'erano gli uomini di Faia, suoi fedelissimi, che accolsero Selim acclamandolo come loro nuovo sultano. «Bentornato, principe», disse il generale. «Vedo che siete riuscito nella vostra impresa. Solo in parte. Mia madre è stata sicuramente arrestata. Ora che cosa avete in mente di fare? Gli uomini di Solimano ci inseguiranno. Dobbiamo affrettarci ad attraversare il confine». «Quale?» «Quello con la Valacchia». «Ma signore, sono più di 400 miglia. Sarò sincero con voi. Apprezzo la vostra fedeltà, ma ora gli uomini di Solimano ci inseguiranno e ci attaccheranno da ogni fronte. Io non me la sento di obbligarvi a venire con me». «Signore, non abbiamo scelta. Solimano ci considera alla stregua di traditori. Credetemi. Se dovessimo tornare a Costantinopoli, lui ci farà massacrare. Abbiamo fatto la nostra scelta. Resteremo al vostro fianco. Non ve ne pentirete. Saprò ricompensarvi. Il popolo è con voi. Nessuno oserà fermarci. Ma che andiamo a fare in Valacchia? Lì saremo al sicuro. Il re Michele è nostro alleato. Vuole mettere fine all'invadenza e al sopruso di Solimano, e noi lo aiuteremo. Ma questo è tradimento. Il mio scopo è di vivere in pace con le popolazioni del nord-est. Ora che l'impero ottomano si è esteso verso Anatolia, Siria, Egitto ed Arabia, dobbiamo lavorare per la pace. Intendo raggiungere un accordo con Michele e gli Asburgo per sconfiggere Solimano e consolidare gli attuali confini. Sono certo che se garantiremo la pace e l'autonomia alle popolazioni del nord-est, Michele e Rodolfo II di Asburgo accetteranno la mia proposta. Per ottenere questo, dobbiamo sconfiggere Solimano. È l'unica speranza che abbiamo per salvare mia madre e i nostri uomini. La vostra lealtà sarà ricompensata. Ve lo prometto. 26. Passarono alcuni giorni, durante i quali gli uomini di Selim dovettero più volte difendersi dagli attacchi di Marud e dei suoi uomini. Infatti Solimano, ormai vecchio e stanco, aveva incaricato suo figlio Marud di inseguire e catturare Selim. Il cammino verso la Valacchia fu lungo e difficile, ma il piccolo esercito di Selim fu ben accolto ovunque dalle popolazioni locali a cui era giunta notizia delle sue imprese nell'Oriente, del suo valore e soprattutto del suo senso di giustizia. Giunti nelle vicinanze del confine con la Valacchia, Selim, con una manovra a sorpresa, anziché avanzare verso Rusciuk e il nuovo ponte sul Danubio, ordinò ai suoi uomini di dirigersi verso Silistra, 50 miglia più a est, dove il suo piccolo esercito avrebbe potuto attraversare il confine, dando meno nell'occhio. Infatti qui si trovava il vecchio ponte sul Danubio, che dei due valichi era il meno sorvegliato e protetto dagli uomini di Solimano. Così, confidando anche sul fatto che l'ordine di arrestare Selim da parte di Solimano non fosse ancora giunto alle estreme periferie dell'impero e nelle piccole città di confine come Silistra, il suo piano funzionò. Giunto a pochi chilometri dalla città si accampò. Quindi inviò un messaggero di pace a Michele per rassicurarlo circa le sue intenzioni. Ottenuto il via libera dal Voivoda, attraversò il confine. Il giorno dopo, Selim e gli uomini, al suo seguito, vennero accolti a Bucarest con tutti gli onori. «Bentornato, Selim. Ho udito delle tue grandi imprese in Anatolia, in Siria, in Egitto e in Arabia. Sei un valoroso, abile combattente e sono felice che tu sia venuto in pace. Permettimi di presentarti l'ambasciatore degli Asburgo, signor Hans von Frankenburg, e mia figlia Eleonora, che già conosci. Molto piacere di conoscervi, signori. Vi presento la mia futura sposa, Cecilia Cayetani, figlia di Don Diego Cayetani, governatore spagnolo di Reggio, e i miei valorosi generali Ahmed e Faya, senza i quali non avrei mai potuto portare a termine le mie molte conquiste. A loro devo eterna gratitudine, anche per il loro contributo nella liberazione di Cecilia dalle carceri di mio padre. Dovete sapere che mio padre l'aveva fatta rapire per farne una sua concubina. Poi, non contento, ha cercato di farmi uccidere per favorire l'ascesa al trono di mio fratello minore, Marud, un uomo ambizioso e feroce tanto quanto mio padre. Comunque, sono lieto che voi ci abbiate accolto in amicizia. Dopotutto, mio padre non si è comportato affatto lealmente con voi, Michele? Non vi è dubbio, ma voi, Selim, siete fatto di tutt'altra pasta. Io l'ho capito subito, dal primo momento che vi ho incontrato, che siete un uomo giusto e affidabile. Ma, ditemi se ho inteso bene, la signorina qui con voi è la vostra futura sposa? Sì. Mi rendo conto che i patti tra voi e mio padre erano che io sposassi vostra figlia. Io ero ben disposto a farlo, poiché vostra figlia è una fanciulla incantevole. Ma poi ho incontrato Cecilia e me ne sono innamorato. Questa notizia mi riempie di gioia. Infatti, dopo la vostra visita di circa 6 mesi fa, mia figlia ha incontrato il principe di Moldavia, Costantino, e se n'è invaghita. Sapete meglio di me che i nostri due paesi sono confinanti. Inoltre, non vi nascondo che io e le nazioni a noi vicine vogliamo unirci per formare un'unica grande nazione indipendente e metter fine ad ogni ingerenza di vostro padre Solimano. Capisco che per voi si tratti di un tema delicato, ma voi cosa ne pensate? Voglio rassicurare Vostra Eccellenza che io non intendo affatto oppormi al vostro progetto e che anzi lo sosterrò con tutte le forze militari a mia disposizione, circa 5.000 uomini che voi avete gentilmente accettato di accogliere. Voglio rassicurare anche vostra figlia, che non ho alcuna intenzione di costringerla a sposarmi, e che da questo istante la ritengo libera da ogni impegno preso in precedenza. Bene, sono molto felice di udire le vostre parole, rispose Michele. Ora se volete accomodarvi, il pranzo è servito. 27. Alcuni minuti dopo, signorina Cecilia, disse l'ambasciatore austriaco, perdoni la mia domanda un po' indiscreta, ma com'è capitata a Costantinopoli? Lei, che è figlia di un governatore spagnolo, potrei dire di essere stata rapita, ma non sarebbe del tutto corretto, poiché in verità io mi sono innamorata di questo mascalzone dal primo momento che l'ho visto. Rise di gusto l'ambasciatore. Non a caso si dice che i turchi sappiano essere amanti meravigliosi e pieni di fantasia. Questo non sono in grado di dirvelo. Comunque, se proprio vuole saperlo, il qui presente Selim all'inizio non si è affatto comportato da gentiluomo. Ma è bastato un ceffone per ricordargli le buone maniere. Che temperamento focoso ha la vostra donna, disse Michele. Siete sicuro di aver fatto la scelta giusta? Ahimè, temo che in realtà sia stata lei a scegliere me. Le donne sono un mistero per me. Dovete sapere che anche mia madre è italiana, veneziana per la precisione. Quindi so bene a cosa vado incontro. Vedete, anche nelle mie vene scorre sangue cristiano. Un mio zio è attualmente doge di Venezia. Ora potete capire la mia attrazione per Cecilia e la diffidenza da parte di mio padre e il suo entourage nei miei riguardi. Di certo, non mi aspettavo che proprio lui potesse attentare alla mia vita. Come potete capire, io e mio padre siamo arrivati ai ferri corti. Lui non solo ha tentato di uccidermi, ma ha anche cercato di ridurre in schiavitù Cecilia, senza tenere in alcun conto dei sentimenti che provo per lei. Malgrado io abbia conquistato vasti territori a est, lui ha disposto che al trono imperiale vada il mio fratellastro Marud piuttosto del sottoscritto, legittimo erede. Che tipo è questo Marud? È un giovane ambizioso e feroce quanto, se non più, di mio padre. Quindi mi pare di capire che non ci siano margini d'intesa tra voi e lui. In realtà non mi fido di nessuno degli Osman, la famiglia di mio padre. Mentre vi parlo, mia madre è sicuramente prigioniera di Solimano. E dire che un tempo si amavano, suppongo che un tentativo di parlare con mio fratello sia a questo punto necessario. Che cosa gli direte? Gli proporrò uno scambio. Rinuncerò al trono purché mia madre sia libera. Voi fareste questo? Chiese Michele. Se servisse a risparmiare la vita di migliaia di soldati, lo farei sicuramente. Voglio a tutti i costi evitare una guerra fratricida, ma temo sia troppo tardi. Quanti uomini ha con sé Marud? Può contare su di un esercito di oltre 300.000 unità. 300.000? Ma è un'enormità! Bisogna però dire che Marud, per quanto sia ansioso di dimostrare il contrario, ha scarse abilità militari ed è un pessimo stratega. Inoltre, i turchi di Marud, per quanto siano abilissimi nel combattimento corpo a corpo, sono piuttosto poveri di armamenti moderni. A questo proposito, intervenne Hans Frank Bergen, Voglio rassicurare Sua Maestà Michele che l'imperatore Rodolfo ha disposto l'invio, oltre che di un contingente militare di 5.000 soldati, anche di un importante quantitativo di armi da fuoco e cannoni. Con quelli potrete tener testa ad un esercito due volte più numeroso del vostro. Bene, disse Re Michele. Questa notizia mi conforta. Poco fa sono stato informato che i turchi premono alle frontiere, a Rusciuk, per l'esattezza, dall'altra parte del Danubio. L'invasione è ormai imminente. Dobbiamo agire con rapidità. I miei uomini sono in allerta lungo tutto il confine con la Bulgaria. Inoltre, un contingente di oltre 100.000 uomini, formato da truppe moldave e provenienti dalla Transilvania, è pronto a difenderci dalle retrovie. Lo scontro è imminente, ma forse siamo ancora in tempo per scongiurare la guerra. Selim, ve la sentite di parlare con vostro fratello? Non ho alcuna fiducia in lui, ma lo farò. Bene, domani stesso invierò un messaggero per parlamentare con vostro fratello. Non sarà necessario, rispose Selim. Andrò io di persona. È più sicuro. Vedete, per quanto io ritenga mio fratello una serpe velenosa, conosco molti dei generali che combattono al suo fianco. Con loro ho condiviso molte battaglie. Questo mi sarà di aiuto. Marud non oserà alzare le mani su di me. I suoi generali glielo impedirebbero. Fra noi c'è un patto di lealtà e di amicizia che va oltre le appartenenze e le convenienze. Bene, disse Michele, è deciso. Ora, signori, vogliate riposarvi. Ci attendono giorni difficili. Domani mattina definiremo gli ultimi dettagli. 28. L'indomani mattina, Selim e i suoi generali si presentarono al cospetto di Michele, dell'ambasciatore austriaco e del suo capitano, Arthur Kruger. Signori, vi ho qui convocati per informarvi che l'esercito turco ha debellato le nostre truppe poste a difesa del confine. I turchi hanno attraversato il Danubio e si sono installati a Kalugareni. Ora minacciano di attaccarci da un momento all'altro. Il pericolo è reale. Bisogna agire. A questo punto, disse Selim, suggerisco di aggirare l'esercito di Marud. Aggirare? E come? I miei generali chiederanno di parlare con Marud. Rassicuratevi, non intendo affatto trattare la resa. Gli comunicherò la mia intenzione di rinunciare al trono in cambio della liberazione di mia madre. Inoltre, i miei generali informeranno Marud che non intendo affatto rendermi complice della disfatta del nostro esercito. Che vuoi dire, Selim? Intendi forse tradirci? Affatto. Vi ho dato la mia parola. Cecilia mi è testimone. Lei resterà qui a palazzo. Ciò vi rassicurerà circa le mie reali intenzioni. Ma si spieghi meglio, principe. A che serve tutto ciò? A guadagnare tempo e a cogliere Marud di sorpresa. Come credete che reagirà mio fratello alla mia proposta? Non saprei. In sostanza, oltre al trono di Solimano, offro a Marud il governo della Valacchia senza alcuno spargimento di sangue turco. Cosa? Strabuzzò gli occhi Re Michele. Tranquillizzatevi, vostra maestà. È solo uno stratagemma. Ah, meno male. Ma cosa vi fa credere che vostro fratello accetterà e cadrà nel tranello? A quel punto, quel che deciderà Marud sarà del tutto ininfluente poiché nel frattempo i nostri eserciti gli piomberanno addosso su più fronti. Fra meno di un'ora, io e i miei 5.000 uomini lasceremo Bucarest. Il grosso del mio esercito si dirigerà verso Gradistea. Intanto, Ahmed e Faia, con un piccolo drappello di soldati, chiederanno di parlare con Marud. Cercheranno di distrarlo il più a lungo possibile. Intanto, il capitano Kruger con i suoi uomini si posizionerà dalla parte opposta, diciamo qui, agghimpati, disse Selim, indicando con un dito il punto esatto sulla mappa. Ecco cosa intendevo per manovra di accerchiamento. Perché il piano funzioni, è necessario concordare il momento più propizio per l'attacco decisivo e concentrico su tre fronti. Non appena avremo raggiunto le posizioni convenute, farò esplodere un colpo di cannone e il capitano farà altrettanto. Quanti cannoni avete a disposizione, capitano? Circa 30, di cui due a lunga gittata. Bene, le spiacerebbe prestarcene uno? Naturalmente. E anche 3 dei vostri uomini che sappiano come si usa un cannone e che si occupino del suo trasporto. Mi sono spiegato bene? Sì, chiarissimo. Ottimo, signori, disse l'ambasciatore austriaco. Non c'è tempo da perdere. Oggi si decidono i destini dell'Occidente cristiano. Se i turchi sfondano anche sul fronte nord-orientale, il loro prossimo obiettivo sarà Varsavia. Poi verrà il turno di Vienna. E questo non possiamo permetterlo. Selim, possiamo fidarci di voi? Assolutamente sì. Il mio desiderio è che i nostri popoli possano vivere in pace, che si metta un limite all'espansione turca e alle infinite guerre che già sono costate la vita a migliaia di persone innocenti. 28. Che pensi di quel turco? Chiese l'ambasciatore a Michele. Mi pare una persona sincera e ragionevole. Sua madre è veneziana. Lo zio è il nuovo doge di Venezia. Mi sembra possa bastare. E se fosse tutto un trucco? Non credo. Cecilia, la ragazza, che sappiamo di lei? È effettivamente figlia di un nobiluomo spagnolo. E lui, Selim, parla un ottimo italiano, una lingua che conosco bene. In passato sono stato anche ambasciatore a Venezia. Persino nell'aspetto si direbbe un veneziano, quel Selim. Al tempo. Non dobbiamo farci ingannare dalle apparenze, disse Michele, che nella sua esperienza di sovrano, di lungo corso, aveva pagato più volte il prezzo del tradimento. Scriverò una lettera al doge e una al viceré di Reggio, aggiunse l'ambasciatore Hans Frank Bergen. A quest'ultimo dirò che Cecilia è sana e salva, e al doge spiegherò che suo nipote Selim è con noi e combatte al nostro fianco contro Marud e Solimano. Lo avviserò che la loro e la nostra vita sono in pericolo, poiché l'esercito ottomano, forte di 300.000 soldati, si prepara a invadere la Valacchia per impossessarsene. Ne approfitterò per chiedere loro anche rinforzi militari. Dio solo sa se ne avremo bisogno. Temo che non ci sia tempo sufficiente per appurare con certezza la lealtà di Selim. Non resta che affidarci alla buona sorte e all'istinto. Un'ora dopo, le truppe di Selim lasciarono Bucarest dirette a Gradistea. Gli uomini di Kruger fecero altrettanto marciando verso Ghimpati, mentre Ahmed, Fahia e un drappello di 12 soldati cavalcarono in direzione di Kalugareni, dove si era accampato l'esercito di Marud. Questi si trovava nella sua tenda in compagnia di una concubina di Solimano che lo sollazzava, quando un soldato turco interruppe le sue effusioni. «Signore», disse Malik, l'ufficiale turco incaricato della sorveglianza, «chiedo perdono. Che c'è, Malik? Ci sono due generali di Salim che chiedono di poter parlare con voi. Due generali? E chi sono? Li conosco. Sono Ahmed e Faya. E che ci fanno con Selim? Anche loro hanno tradito? Pagheranno con la vita il loro gesto. Chiedono di essere ricevuti. Li lascio passare? Lasciali passare. Vediamo che hanno da dirmi questi due vermi. Alcuni minuti dopo, salute a voi, principe. Ci manda suo fratello Selim. Che vuole da me, quel lurido traditore? Vi manda il suo saluto e vi informa che è pronto a combattere al vostro fianco. Cosa? Come sarebbe a dire combattere al mio fianco? È forse impazzito? No. Lui ha riflettuto a lungo e ha deciso di non volere affatto che migliaia di guerrieri turchi vengano uccisi a causa sua. Mi pare un po' tardivo il suo ripensamento. Comunque, non ho bisogno di lui. Ho ordini del sultano di arrestarlo e di riportarlo a Costantinopoli, dove l'aspetta una fine degna del suo rango. Selim mi ha anche incaricato di riferire che non opporrà ostacoli a che voi diventiate sultano, aggiunse Ahmed. Ah, questa proprio non me l'aspettavo. Mandate a dire al vostro capo che Solimano ha già deciso. Sarò io il nuovo sultano, piaccia o meno a Selim. Il fatto che lui ora si faccia da parte e abbandoni ogni diritto ereditario non cambia nulla. Il giochino non funziona con me. Andate a riferire. Anzi, no. Ho un'idea migliore. Uomini, prendete questi due vermi. Ma signore, replicò Ahmed sorpreso, siamo venuti in pace. Non mi importa nulla. Uomini, arrestateli. Deciderò in seguito se farvi tagliare la testa qui o a Costantinopoli. 29. Marud è avvelenato. Era la mattina del 23 di agosto del 1595. Marud si preparava ad invadere Bucarest, attaccare Re Michele e il Palazzo Reale, sede del governo. Aveva indossato la sua armatura da combattimento ed era appena salito in groppa al suo destriero bianco, quando improvvisamente si fermò. Restò immobile e in silenzio per alcuni secondi. «Che avete, signore?» chiese Malik, il suo ufficiale. «Non mi sento bene», disse Marud. «Cosa vi sentite? Mi viene da vomitare. Presto, toglimi l'armatura». Marud scese faticosamente da cavallo. L'ufficiale gli rimosse la pesante armatura. Il principe fece qualche passo in direzione della tenda sulle gambe malferme, poi crollò a terra pochi metri prima di raggiungerla. «Ma che gli è preso al principe?» disse un altro ufficiale. «Non lo so», rispose Malik. «Presto, aiutami a sollevarlo e a riportarlo in tenda». Alcuni minuti dopo, Marud giaceva morto sul suo giaciglio. Un po' di schiuma gli fuoriusciva dalla bocca. «Ma... è morto? Che cosa può essere stato?» «Non lo so. Va a chiamare il suo medico personale». Questi accorse due minuti dopo e confermò quello che Malik temeva. Marud era stato avvelenato. «Ma chi può essere stato?» chiese Malik. «Stava bene fino ad un'ora fa. Chi era con lui nella sua tenda?» «Vanessa, una delle concubine di Solimano. Presto, guardie, cercatela. Ma, signore, tutto è pronto per l'attacco. Quale attacco? Lo capisci che Marud è morto? Senza di lui non se ne fa niente. E allora, che facciamo? Torniamo indietro? No. Informeremo Solimano. Solo lui può decidere il da farsi. Io non mi prendo questa responsabilità. Qui c'è lo zampino di Selim, disse l'altro ufficiale. Me lo sento. È uno dei suoi trucchi. Sciocchezze. E se venissimo attaccati? Ora siamo noi ad essere vulnerabili. Avvisa tutti gli uomini di scendere da cavallo e di tornare all'accampamento. Fa raddoppiare i turni di guardia. 30. Vanessa e Oskan. La notizia dell'improvvisa morte di Marud si sparse tra i soldati e seminò sorpresa e angoscia. Intanto, nella tenda in cui erano tenuti prigionieri Ahmud e Faya, entrò di soppiatto una donna. «Vanessa, che fai tu qui?» chiese Oskan, che era di guardia ai due prigionieri. «Non sei autorizzata a entrare?» «Tranquillo, Oskan. Nessuno mi ha visto entrare dal retro. Se ci vedono insieme Marud, ci farà frustare.» «Ma come? Non hai sentito la notizia?» «Che notizia? Sono rinchiuso qui dentro da ore. Sono stanco, ho fame, e nessuno mi dà il cambio. Se vuoi, starò io qui per qualche minuto. Non scherzare. Piuttosto, dove sono gli altri? Sono partiti?» «Partiti? Ma allora davvero non sai nulla, Oskan?» «Ma si può sapere di che parli?» «Te l'ho detto. Sono qui da ore. Secondo me, si sono dimenticati di me e dei prigionieri.» «Lo credo bene, con quello che è successo. Cioè, spiegati. Marud è morto. Come sarebbe morto? Stava bene fino ad un'ora fa. Ha avuto un malore. È caduto a terra e non si è più rialzato.» «Intanto Ahmed, udite le parole di Vanessa», intervenne. «Vanessa, sei tu?» «Sì, Ahmed. Marud è davvero morto. Ho inteso bene?» «Sì, hai capito bene», rispose la ragazza, che conosceva bene Ahmed, essendo egli fratello maggiore di Batur, il suo giovane amante che Marud aveva fatto uccidere. «Batur è vendicato. Questa è una gran bella notizia. Presto, Vanessa. Liberaci. Dobbiamo avvertire Selim.» «Ehi, un momento», disse Oskan, che conosceva bene Ahmed per aver combattuto al suo fianco in più occasioni. «Io ho ricevuto ordini di sorvegliarvi. Come hai detto che ti chiami, soldato?» «Oskan, signore. Oskan, ascolta bene. Se avvertiamo subito Selim, forse avremo il tempo di evitare un bagno di sangue.» «Che vuol dire, signore?» «Voglio dire che mentre noi parlottiamo, le truppe di Selim, di Michele e del capitano Kruger si stanno dirigendo verso l'accampamento per distruggerci.» «Kruger? E chi è?» «Non importa, sciocco. Ascolta, se ci libererai, Selim ti sarà riconoscente.» «Selim? Ma lui è un traditore, o no? Ma che dici? Ora che Marud è morto, chi credi che sarà il nuovo sultano?» «E che ne so», rispose Oskan. «Io non ci capisco più niente. Non c'è niente da capire. Dai, forza, liberaci dalle catene.» «Oskan», intervenne Vanessa, «Ahmed ha ragione. Dagli ascolto. Presto saremo attaccati. L'esercito turco è nel caos più totale. Moriremo tutti. Vuoi forse morire?» «Certo che no. Yaris ne sarebbe profondamente addolorata.» «Yaris?» Oskan strabuzzò gli occhi nell'udire quel nome. Tu sai di Yaris? Sì, lei mi ha parlato di te. Le piaci molto. Sono certo che se libererai Ahmed e Faya, Selim ti premierà e forse ti permetterà di sposarla. Io e Yaris sposi? Sarebbe meraviglioso. Ma come faccio? Non posso disobbedire agli ordini. Soldato, d'improvviso intervenne Faya. Il tuo attaccamento al dovere è encomiabile. Ti prometto che se ci lascerai andare, ti farò promuovere di grado. Che ne dici? E va bene, ma se lo verrà a sapere, Malik mi farà scorticare vivo. Non temere. A lui penseremo noi. Dai su, forza Oskan. Non abbiamo molto tempo. Finalmente Oskan si decise a liberare i prigionieri. Ben fatto, Oskan. Non ti pentirai della tua decisione. Ora ci servono armi e cavalli. Armi e cavalli? E dove vado a prenderli? Disse Oskan. Lo so io, disse Vanessa. Aspettatemi qui. Non tarderò. No, Vanessa, disse Oskan. Non è prudente. Una donna darebbe nell'occhio. Andrò io. A me nessuno farà caso. 31. Alcuni minuti dopo, Oskan tornò alla tenda con cavalli e munizioni. Seguitemi, disse. Vi porterò io fuori dell'accampamento. Nel frattempo, il cielo si annuvolò. Di colpo, una pioggia scrosciante si abbatté sull'accampamento, rendendo la visibilità quasi nulla. Questa pioggia è un dono di Allah, disse Ahmed. Nessuno farà caso a noi. Venite con me, disse Oskan. Sono stato di guardia per ore e so da dove passare per evitare i posti di guardia. Oskan, disse Ahmed, sei un buon soldato. Sei più in gamba di quello che immaginavo. È bastato pronunciare il nome di Yaris per ringalluzzirlo, infondergli coraggio e determinazione, disse Vanessa. Noi donne ci sappiamo fare in certe cose. Vanessa, chiosò Oskan, io amo quella donna e farei qualunque cosa per lei. Mi riempie il cuore di tristezza saperla sottomessa a quel bruto del sultano. Tranquillizzati, Oskan, disse Faya. Solimano ha quasi 72 anni e soffre di cuore. Non credo che nel suo harem avvenga granché. Il sultano ha già dato. Resta da capire come reagirà quando avrà notizia della morte di Marud, il suo erede prediletto. Che vuoi che faccia alla sua età? Dubito sia ancora in grado di cavalcare. Fossi in voi, non sottovaluterei Solimano. Quel che non può sapere è che l'esercito turco è circondato su più fronti. Più di 30 cannoni sono pronti a colpire il nostro esercito e la cosa non mi rallegra affatto. Dopotutto, è la nostra gente. Sono soldati forti e valorosi, con i quali ho combattuto molte battaglie. Bisogna a tutti i costi fermare Michele e Kruger. Dovremmo avvertirli. Solo così potremo scongiurare il loro devastante attacco. Da Kruger andrò io, disse Faya. Bene. Non resta che avvisare Re Michele a Bucarest. Lo raggiungerò io in Valacchia, disse Vanessa. In quella terra ci sono nata e sono sicura che mi ascolteranno. Tu, Oskan, verrai con me. Vuoi, con piacere. Ho giusto bisogno di un bagno e di rifocillarmi. Ho così tanta fame che potrei ingoiare un bue intero e senza masticarlo. 32. Circa un'ora dopo, venuto a conoscenza della morte di Marud, Salim entrò trionfalmente nell'accampamento turco e fu accolto con scene di giubilo da parte dei soldati turchi che lo acclamarono come il nuovo sultano. Malik, comandante in capo, accettò la resa e depose le armi, a patto che ai soldati turchi e ai loro ufficiali non fosse torto un capello e che fosse loro permesso di poter tornare in patria. Inoltre, chiese garanzie affinché fosse concesso alle spoglie di Marud di poter tornare a Costantinopoli al fine di celebrarne i funerali di Stato. Tutte le sue richieste furono accolte dalle parti in causa. 24 ore dopo, Solimano, venuto a conoscenza della morte di Marud e della resa del suo esercito, raggruppò tutti gli uomini a lui rimasti fedeli, montò in sella al suo cavallo, diretto in Valacchia, vendicare Marud e catturare re Michele, Selim e Cecilia. Ma giunto a pochi chilometri dal confine, esausto per la lunga cavalcata, lo stroncò un infarto. Ancora una volta, l'esercito ottomano si trovò allo sbando e di nuovo Selim fu acclamato dai soldati come successore di Solimano. Tornato trionfalmente a Costantinopoli, accolto da scene di giubilo dall'intera nazione, Selim salì sul trono. Il suo primo atto fu di liberare sua madre dalla prigione ottomana e il secondo di annunciare un'amnistia per tutti coloro che avevano servito il precedente regime. Di seguito annunciò il suo matrimonio con Cecilia. Alle sue nozze invitò i dignitari di mezza Europa, compresi suo zio, il neoeletto doge di Venezia, re Michele di Valacchia, l'imperatore Asburgo, Rodolfo II e persino don Diego Cayetani, padre di Cecilia. Infine mantenne la sua parola, accordando il perdono a Malik e promuovendo di grado Ahmed, Fahia e Oscan. A quest'ultimo accordò il permesso di sposare Yaris. Ma Hidevran, madre di Marud, e Rustem Pasha, il grande visir di Solimano, colui che aveva attentato alla sua vita, furono entrambi allontanati da corte ed esiliati. Quanto a Vanessa, nell'harem non fece più ritorno. Diventò una calfa, in turco apprendista, assistente. Un termine generale nell'impero ottomano per indicare le donne assistenti e le soprintendenti in servizio nel palazzo imperiale. Per anni nessuno sospettò che fosse stata proprio lei ad avvelenare Marud, poiché nessuno sentiva la sua mancanza. Come promesso, sia a lui che a Solimano furono concessi funerali di Stato e la tumulazione in Santa Sofia. 33. Epilogo. Il 34 settembre del 1594. Selim sposò Cecilia con una magnifica cerimonia. Sebbene il popolo amasse chiamarla Hurrem Cecilia, o semplicemente Hurrem, la sorridente, per via della sua gaiezza, Cecilia, come Sofia prima di lei, fu la seconda concubina schiava ad essere elevata allo status di legittima sposa del sultano. Cecilia divenne anche la prima consorte a ricevere il titolo formale di Aseki Sultan. Questo titolo, utilizzato per un secolo, rifletteva il grande potere delle consorti imperiali. La maggior parte di loro erano ex schiave nella corte ottomana, elevando il loro status più in alto delle principesse ottomane e rendendole uguali alle imperatrici consorte in Europa. In questo caso, Selim non solo ruppe la vecchia usanza, ma iniziò una nuova tradizione per i futuri sultani ottomani. Sposarsi con una cerimonia formale e dare alle proprie consorti un'influenza significativa sulla corte, specialmente in materia di successioni. Con l'avvento al trono ottomano di Selim, il biondo, e di Hürrem, la sorridente moglie del sultano, ebbe inizio un lungo periodo di pace. Il sultano voleva fare della sua capitale Costantinopoli la città più bella e più ricca del mondo. Così attrasse a Costantinopoli numerosi artigiani, tecnici e mercanti delle più diverse provenienze e delle più diverse fedi turchi, greci, ebrei, armeni, che vivevano e lavoravano gli uni accanto agli altri, conservando le loro culture e le loro lingue senza che si creassero problemi e conflitti. Nelle vie della città fece costruire splendidi edifici pubblici. Sulle acque del Bosforo e del Corno d'Oro regnava ora un'attività febbrile. Si agitava una folla pittoresca. Si poteva assistere alle sfilate dei Gianniseri, alle feste e agli spettacoli organizzati dalle potenti corporazioni di mestiere per celebrare vittorie militari o lieti eventi nel palazzo del sultano. Agli estremi confini dell'Asia, la Costantinopoli di Selim era diventata davvero la più bella e la più affascinante metropoli d'Europa. 34. Sotto il regno di Selim, l'impero giunse all'apice del suo potere diventando un'entità multietnica, multireligiosa e multiculturale. Controllava un immenso territorio, esteso dai confini meridionali del Sacro Romano Impero alle periferie di Vienna e della Polonia a nord, fino allo Yemen e all'Eritrea a sud, dall'Algeria a ovest fino all'Azerbaigian a est, dominando la quasi totalità dei Balcani, del vicino Oriente e del Nord Africa. Con Selim, la sublime porta, ossia il governo ottomano, entrò per la prima volta in regolari relazioni diplomatiche con stati esteri. Molti artisti, anche stranieri, sperimentarono il mecenatismo del sultano. Durante il suo regno si ebbe una grande fioritura nel campo dell'arte e gli scrittori dell'epoca gettarono le basi per la fondazione di una letteratura nazionale. Istanbul divenne il centro intellettuale dell'Islam. Il sultano fece inoltre costruire acquedotti e strade e predispose altri importanti lavori pubblici. In tutto l'impero non vi era alcuna città che egli non avesse abbellito in modo considerevole. La sua corte era nota per la sua magnificenza e la sua raffinatezza. All'interno dei suoi immensi territori regnava ora la pace. Grazie anche al supporto di sua moglie, Selim attuò importanti riforme e si fece promotore delle belle arti. Non fu infatti soltanto soldato, ma anche uomo di cultura. Riformò il sistema feudale dell'impero, fece vivere in armonia diverse etnie di sudditi, fondò scuole e dispensò beni alla classe degli ulema, i dotti nelle scienze religiose nel mondo musulmano. Ricostituì e migliorò l'amministrazione civile e militare, insistendo molto sul dovere dell'imparzialità nei riguardi di tutte le classi sociali. Destituì o condannò a morte i piccoli e grandi funzionari corrotti e stabilì imposte lievi. 35. Hürrem. Selim e Cecilia violarono un'altra legge della corte ottomana. Una concubina, infatti, non avrebbe potuto avere più di un figlio maschio, ma Cecilia ne ebbe ben cinque, più una femminuccia. il suo spirito gioioso e il suo temperamento giocoso le fecero guadagnare un nuovo nome, Khurrem, dal persiano Khorram, l'allegra. Era nota la sua passione per la poesia, che probabilmente contribuì molto a farla entrare nelle grazie di Selim, il quale era un estimatore della poesia ed era poeta egli stesso. La sua influenza sul sultano divenne presto leggendaria. Per quanto riguarda i rapporti con l'estero, Khurrem Cecilia non dimenticò le sue origini e cercò sempre di impedire gli scontri militari con gli spagnoli e gli Asburgo. Dal canto loro, i governi d'Europa ricambiavano la sua cortesia sempre con ricchi doni. Selim parlava l'arabo, l'italiano, il persiano, comprendeva lo spagnolo e dedicava molto tempo alla lettura. Era particolarmente innamorato della novellistica persiana e delle leggende di Alessandro Magno narrate dal poeta persiano Nizami. Inoltre, amava molto la musica e possedeva discrete conoscenze di astronomia. Era appassionato di orologi e dell'arte di misurare il tempo. Grazie all'impulso da lui impresso, lo splendore e il prestigio del suo impero sopravvissero a lungo. Durante il suo regno, il palazzo imperiale divenne un magnifico edificio a due piani, con terrazze e giardini, realizzati nel punto più alto del promontorio e quindi in grado di offrire una veduta impareggiabile sul Bosforo ed il Mar di Marmara. Il pian terreno era adibito a funzioni di servizio, mentre il primo piano loggiato era diviso in quattro appartamenti di lusso. Tutte le stanze presentavano aperture monumentali con accesso al portico costellato di colonne. Khurrem divenne anche la prima donna a rimanere alla corte del sultano per tutta la durata della sua vita. Nella tradizione della famiglia imperiale ottomana, la consorte di un sultano doveva rimanere nell'harem solo fino a quando suo figlio non fosse diventato maggiorenne, intorno ai 16 o 17 anni. Dopodiché sarebbe stato mandato via dalla capitale per governare una provincia lontana e sua madre l'avrebbe seguito. Oltre agli affari di Stato, Khurrem Cecilia si impegnò in diversi importanti lavori e come il marito, dalla Mecca fino a Gerusalemme, fece costruire numerosi edifici pubblici. Tra le opere pubbliche più importanti vi furono due scuole, una fontana e un ospedale femminile. Fece anche commissionare un bagno pubblico per servire la comunità nella vicina Hagia Sophia. A Gerusalemme fondò nel 1552 la Zeki Sultan Imaret, una mensa pubblica per nutrire i poveri che si diceva sfamasse almeno 500 persone due volte al giorno. Fece anche costruire una mensa pubblica alla Mecca. Khurrem Cecilia fu anche una donna impegnata in opere di bene. Si adoperò per proteggere e favorire lo studio della filosofia. Lei stessa fu una delle donne più istruite e colte del suo tempo. Riceveva ambasciatori, intratteneva corrispondenze con sovrani, nobili e artisti di tutto il mondo. 36. La fine. Nei primi anni del 1620, subito dopo il compimento di 60 anni, Khurrem Cecilia si ammalò. Selim non si allontanò mai un solo giorno dal suo capezzale. Si dice che il sultano, allo scopo di non disturbare la quiete dalla sua sposa nel decorso della malattia, ordinò di bruciare tutti gli strumenti musicali del palazzo. Solimano non si allontanò dal letto di Cecilia fino all'ultimo giorno, quando ella morì. Si può affermare con assoluta certezza che Selim nutriva un grande sentimento d'amore per Hürrem. Basta leggere le dediche d'addio scritte dal sultano alla defunta moglie dopo la sua morte. Queste dediche si sono conservate fino ai giorni nostri. Cecilia venne inumata nel mausoleo di Costantinopoli, decorato in squisita ceramica di Isnik, con scene del paradiso terrestre, forse in omaggio alla sua natura allegra. Il suo mausoleo è adiacente a quello di Solimano, una struttura separata e più cupa. Anche quando Hürrem era in vita, Selim dedicò alla sua amata poesie, come questa. Trono del mio rifugio solitario, mia ricchezza, mio amore, luce della luna, mia più sincera amica, mia confidente, mia stessa esistenza, mio solo e unico amore, la più bella tra le belle, mia primavera, mio amore dal volto lieto, mio giorno, mia foglia allegra, mia rosa, la sola che non mi reca affanno in questo mondo, mia donna dai bei capelli, mio amore dagli occhi maliziosi, canterò sempre le tue lodi. Io, amante dal cuore tormentato, dagli occhi pieni di lacrime, sono felice.